No, scusate. Primo problema, iniziamo con... Beh, è classico, se non iniziamo con un problema tecnico non siamo contenti, quindi anche oggi avevo dimenticato. Greg, ma ci stavano fischiando fin dall'inizio? Sì, mi hanno detto dalla redazione che ci stanno fischiando. Scusate, per chi... Vabbè, siamo su Radio Quarantella, ospiti su Radio Virus, che ci... dona questa piattaforma da cui emettere, perché altrimenti non andremo in onda da nessuna parte, non siamo buoni. E oggi iniziamo con un nuovo programma. Abbiamo deciso di chiamarlo, io e il mio ospite, Sutterranea Periplo Sud. Un ospite speciale, Luca Sessa, e devo ammettere anche mio amico, purtroppo, forse, no, per fortuna in realtà, che ci accompagnerà da oggi e per le prossime 4 domeniche attorno a 4 rotte verso il Mediterraneo. E, Luca Sessa, per chi non lo conoscesse, abilitato come professore associato di politica economica. Io l'ho conosciuto come economista, ricercatore, direi di riferimento per me qui a Napoli. Con lui ho fatto tante bellissime chiacchierate attorno a, possiamo dire, il Mediterraneo. Poi io, ovviamente, devo subito dire, come abbiamo scritto nella descrizione della trasmissione, che per Luca, economista, è un po' diminutivo, nel senso che la cosa che è interessante è che parte appunto magari dall'economia per poi in realtà ampliare il discorso sull'economia, il sud, su tantissime altre discipline, come quella, come il cinema, come l'arte coreutica, il sacro, per andare a fare delle analisi che sono decisamente fuori da alcuni canoni della storiografia tradizionale. Io, ad esempio, la cosa che più mi piace ascoltare di Luca è quando parliamo della storia delle terre in cui adesso stiamo vivendo, in questo caso la città che ci accomuna, che è Napoli. E lui, infatti, tra l'altro, io non l'ho conosciuto, ovviamente non sono mai stato uno studente di economia, l'ho conosciuto per altri motivi. Lui, ad esempio, organizza anche il Festival all'Ex Asilo Filangieri, che sono queste giornate in cui vengono invitate culture altre, lontane magari da Napoli, ma vicine a livello di cultura, di mediterranea. Cultura mediterranea. Esatto. No, ma infatti devi correggimi. No, e poi ultimamente, dall'anno scorso, se non sbaglio, 2 anni fa, sì, è iniziato questo nuovo ciclo, Teatro Civile Meridionale, che poi è anche cinema meridionale. Insomma, che attraverso il teatro, attraverso il cinema, si indaga, si vede alcune narrazioni attorno al Sud Italia, ma non solo, della cultura sud. E oggi iniziamo con, poi ovviamente c'è, però infatti non parliamo di Festival Teatro Civile Meridionale, magari un'altra puntata. Oggi le 4 puntate saranno tematiche. Quella di oggi, innanzitutto ti volevo chiedere, Sutterranea, Periplo Sud, perché? Okay. Beh, io ad esempio non sapevo cosa significava periplo, perché sono un po'... Vabbè, ma tu mi insegni ogni giorno tantissime parole, caro Greg. In inglese. Grazie troppe per questa occasione. Cioè, alla fine è un grande regalo parlare di sud, e me lo doveva fare un milanese. Ma io sono adottato. Questa cosa è fantastica, perché effettivamente è un po' la mia passione. E mi emoziona al punto che vedete, stamattina sto perdendo la voce a causa di dover parlare di questo fatto. E mi piace, è anziano. Sì, c'è un'età, però non ho ancora il Covid, effettivamente. Beh, per adesso sembra che te l'ho scampata. Poi se ce l'ho, peggio per Greg, che sta qua a fianco a me. Allora, Sutterranea è un titolo che abbiamo creato ieri, fondamentalmente, parlando poi con Greg, perché alla fine ciò che doveva unire queste 4 puntate che stiamo pensando era un po', insomma, questa linea underground dove stiamo, Un po' il sud e un po' il Mediterraneo, quindi è sotterranea. Il problema che siamo posti è che cosa, dato quello di cui vogliamo parlare, che sottotitolo un po' esplicativo riusciamo a dare? Era importante metterci il concetto del navigabile, perché quello di cui parliamo oggi è molto fondato sul navigabile e quindi doveva entrarci quello, ma era complicato. E poi dovevamo mettere questo concetto della conoscenza di un sud come se fosse un oggetto inesplorato, cioè tutte angolature che non vengono mai guardate per comprendere una sostanza del sud, e il periplo, cioè una circumnavigazione costa a costa, fatta anche per esplorare, per conoscere, per girare intorno, ma fatta anche per esplorare, è esattamente quello che ci proponiamo di fare. Quindi periplo significa circumnavigare. Circumnavigazione di una costa, per esempio, questa che fece Vasco de Gama per poi passare dall'altra parte. No, ho capito, parte, attorno all'Africa. Il periplo, no, dell'Africa, no, dell'America meridionale, no? Il periplo di Vasco de Gama. Aspetta, no, Vasco de Gama era l'Africa. Esatto. Allora mi riferivo a quell'altro, già sto sbagliando. Va bene, comunque, come si chiama quell'altro dell'America? Beh, Magellano. Non mi fa fare figuracce su cose lontane dalle mie conoscenze. Vabbè. No, non ti preoccupare, anzi, qui siamo, è una sperimentazione. La seconda domanda è basso Mediterraneo. Perché? Cioè, cosa intendi per basso Mediterraneo? La prima puntata, come abbiamo detto, ci muoveremo attraverso quattro rotte in queste prossime quattro domeniche. La prima puntata abbiamo deciso di parlare attorno al basso Mediterraneo. Ok. Beh, cosa intendi per basso Mediterraneo? Sì, grazie. Effettivamente abbiamo cercato di mettere un titolo alla prima. E basso Mediterraneo è questo rettangolo stretto e lungo di terra, di acqua circondata da terre, che a motivo di una cosa fondamentale, che poi alla fine è il navigabile, a motivo di relazioni di consustanziamento che sono durate millenni, condivide una cultura valoriale, un atteggiamento, una percezione della vita comune. E questo rettangolo è quello che poi, appunto, per esempio sta nell'immagine del festival, caso rovesciata rispetto alle normali prospettive, si estende dalle colonne d'Ercole fino alla Mesopotamia, perché appunto un'altra cosa che abbiamo scelto simbolicamente per sotterranea è un frammento della tavola peutingeriana. Che cos'è la tavola peutingeriana? Prima di tutto, la tavola peutingeriana è esattamente quello che raffigura il basso Mediterraneo, cioè l'estensione di questo Mediterraneo stretto e lungo. È un grande rotolo che era usato dai romani e che è stato poi tramandato fino all'epoca medievale, trascrivendolo, ridisegnandolo, che riporta tutto il Mediterraneo fondamentalmente collassato nelle acque, cioè praticamente tutte le coste sono ravvicinate. Viene questa tavola peutingeriana. È una mappa, insomma. È l'Atlante del mondo antico. Pensate che infatti non esisteva, cioè taglia completamente la Germania, l'Inghilterra. Non esistono quelle cose nel mondo antico, non esiste nel mondo che era il mondo. In quell'epoca non esistevano quelle, quando fu creata nella prima epoca romana, in epoca romana questa mappa, il mondo che importava era quello, ma viene infatti scambiata per la mappa delle strade, avrebbe dovuto includere anche le strade che conducevano fino alla Germania, invece è una tavola del navigabile, perché il navigabile in quell'epoca non si faceva costa a costa, era tutto un periplo per arrivare da una parte all'altra. Questo concetto del navigabile è molto importante per capire lo sviluppo di quella che ho definito economia relazionale. Poi filangieri, altri hanno parlato di economia civile, economia relazionale, i beni relazionali. Ultimamente l'amico Leonardo Becchetti li tira in ballo, ma io parlo di un'altra cosa. Non parlo di quei beni immateriali che sono l'analogo quasi appunto immateriale del bene comune, per esempio Silvio Filangieri, che è l'accezione di economia relazionale. Economia relazionale è la maniera di svilupparsi di relazioni, scambi, che è avvenuta esattamente grazie al navigabile in epoca antica, e da quello poi ha dato luogo alla nascita vera della cultura occidentale. Sì, quello di cui stiamo parlando, la tavola poitingeriana, è diventata un po' il simbolo di questa trasmissione. Simbolo forse è una parola grossa. E semplicemente la stiamo usando come immagine per presentarla e quindi... perché ci piaceva anche come punto di partenza. Se la vedete sembra... è una mappa un po' strana, come... cioè, Luca ci ha appena spiegato perché, insomma. Quindi sostanzialmente mi è interessato molto quello che hai detto, cioè come se le coste fossero poi le vere strade di commercio del periodo. Sì, attenzione, c'erano anche le strade di terra disegnate, ma c'erano anche i percorsi fluviali, cioè è tutto ciò che era percorribile. Ora, in quel, una cosa che dovrebbe essere messa in scienza e in economia, perché purtroppo gli economisti non si fanno i fatti loro e hanno iniziato a indagare, a cercare di impossessarsi anche del terreno, diciamo, dei valori culturali, dei comportamenti culturali. Ed è questo, in verità, il mio interesse di ricerca principale, quindi le determinanti economiche dei comportamenti culturali. E quindi, in questo, una cosa da valorizzare, che non è stata ancora valorizzata in questa scienza, è il concetto del navigabile, perché per tantissimi, per millenni fondamentalmente, spostarsi via mare, fare 10.000 miglia via mare, era molto più rapido che fare 100 km via terra. Certo. Per andare da solo, ma ancora di più per trasportare merci. Quindi la cosa fondamentale, diciamo, per la ganancia, il guadagno, insomma, quindi aumentare le probabilità di sopravvivenza, chiamiamole così, oppure sopravvivere, è usare questo navigabile. Andiamo, vamos por parse, por parte, se si dice in spagnolo, andiamo un attimo per steps, direbbe il nostro greco. Una cosa che mi ha sempre affascinato è questo libro che lessi, vabbè, più di un decennio fa, di Jared Diamond, che si chiama Armi, acciaio e malattie. Allora, Jared Diamond è un genio, veramente, non dico tuttologo, ma quello è un picco della mirandola, sa tutto, fisiologo, geografo, è un mostro, biologo, è un mostro totale. Lui in quel libro... Lui cos'è? È un biologo? Fisiologo, poi anche biologo, ha acquisito tre specializzazioni apparentemente diversissime, ti dico, anche geografo, perché veramente ha studiato di tutto, è un mostro. Vabbè, chiaramente si è laureato a Harvard e poi ha fatto il dottorato a Cambridge, cioè livelli altissimi, chiaramente già, diciamo, però suoi fondamentalmente, oltre che tutti. Bene, in questo libro, fra le tantissime cose che dice, il titolo richiama l'invasione del Sud America e come mai c'è stato questo successo, la cosa che mi ha sempre colpito... Quale è successo, scusami, non ho capito. Il successo dell'invasione di quanti erano? 15, ah, okay, che hanno conquistato un continente, vabbè, spiega, okay, alcune, okay, cose. 15 spagnoli. 15 spagnoli, diciamo, quelli come numero che erano. Oggi parliamo di sostanza, non mi prendete male su alcuni dettagli. Che no, no, no, essere... no, mi chiedevo, no, cioè, non cioè, avevi spiegato che tipo di successo, cioè... Sì, sì, no, sto dicendo 15. Okay. Allora, la cosa che invece, un capitolo interessantissimo secondo me, è quello in cui spiega che l'economia, cioè la prima forma di economia che si è realizzata è l'agricoltura sedentaria, no? Cioè gli umani prima erano nomadi e prendevano quello che c'era per nutrirsi, come gli animali, cose del genere. A un certo punto pigliano e si sedimentano in un posto, cioè si stabilizzano in un posto. Questa cosa qua è già una rivoluzione. Questo accade, io non, magari, appunto, non mi dite niente su numeri che possono essere sbagliati, ma lo colloco nella mia memoria di questo libro letto 15 anni fa. A 20.000 anni fa, circa 20.000 anni fa, si stabilizzano nel Fertile Crescent. Che cos'è il Fertile Crescent? La Mesopotamia, fondamentalmente. Cioè, lui dice, ma com'è possibile che, come mai tutto è decollato lì? Te lo spiega dicendo, c'era un vantaggio di dotazioni di fauna e flora. Non è che ce ne fossero di più, ma era una qualità di dotazioni di fauna e flora più facilmente addomesticabile. Cioè, se lui, ci sono anche i disegnini, ti fanno vedere com'è possibile che ci sia, cioè, il grano di prima non ha nessuna relazione con il grano di oggi, le mele di prima non hanno nessuna relazione con le mele di oggi, erano cose minuscole. Attraverso la sedimentazione, la stratificazione del lavoro anonimo di ciascuno chiamiamo già contadino, ma insomma, di ciascun umano che si è andato applicando all'agricoltura, le mele sono diventate mele. Insomma, questo, le mele sono diventate man mano delle cose, appunto attraverso i nesti si vedeva come migliorare la specie che usciva, una specie di modifica genetica, insomma erano innesti, semplicemente, allora vedevano qual era la qualità che dava i migliori frutti, più abbondanti, più grandi. Quindi lui hanno creato l'agricoltura. Ora, noi siamo ancora alle premesse, perché il punto è, se tu ti sei stabilizzato in quell'area lì, perché poi, dato che sei lì, a un certo punto ti inizi a muovere? Vedete come l'economia ci omnipervade qua. Cioè, perché chiaramente non è che ti muovi da lì a quel punto, una volta che ti sei stabilizzato, ed è un fattore economico che ti ha fatto stabilizzare fondamentalmente, crei un'altra società anche, chiaro, però un fattore economico che ha fatto stabilizzare, è un altro fattore economico quello che ti fa muovere, e non sarà turismo, perché a meno che non sei re come Ulisse, Vassili, non Vassili, cioè re in greco, non è che vai viaggiando per il Mediterraneo, vai viaggiando in quell'epoca là. Quando eri nomade viaggiavi semplicemente per alimentarti, per andare cercando, perché non c'era questa forma stabile di vita. Invece, in quel caso lì, ti muovi per un motivo che alla fine è dettato da motivi economici. Quindi alla fine si tratta magari di cercare nuove terre, magari si era creata una saturazione, oppure insomma bisognava cercare nuovi spazi. Collochiamoci nella Mesopotamia, fra l'altro appunto una nota, la Mesopotamia è l'ultimo, è l'estremo di questa tavola peutingeriana, perché appunto era raggiungibile attraverso canali navigabili. Quindi la Mesopotamia condivide la stessa scintilla del basso Mediterraneo e infatti ci sono tantissime relazioni linguistiche e non solo. Il grano dei sepolcri che mettiamo ai sepolcri è lo stesso grano della loro festa della risurrezione, fondamentalmente del Norus, il nuovo anno, lo mettono anche loro esattamente gli stessi germogli di grano. Bene, collochiamoci in quella posizione di 20.000 anni fa e vediamo, questi si devono iniziare a muovere, magari più recentemente di 20.000 anni fa. Se si muovono verso est, trovano il Mar Caspio, possono, un po' più a nord, possono muoversi in quella direzione, ma è faticoso, devono andare via terra. Quindi quello lì ha un limite, l'espansione in quella direzione, il gradiente di là è basso, cioè il gradiente significa la direzione di massima espansione, non sta in quella direzione lì. La direzione di massima espansione invece sta dall'altra parte, dove si raggiunge attraverso questi canali fluviali direttamente la costa, che poi lì sotto fa questa specie di L che coricata, no? Questo stiamo parlando del mar, quando arrivi davanti all'Egeo, no? Dall'Asia, all'Egeo. Sotto la Turchia, sotto l'Asia Minore, okay. Cioè davanti all'Asia Minore, la Turchia, tu, se ti muovi quindi in direzione ovest, tu trovi non un mare come il Caspio che poi finisce là, poi raggiungi l'altra parte e poi di nuovo c'hai la terra e c'hai di nuovo questa fatica. Tu hai una qui è finita la parte di Jared Diamond e iniziano altri concetti che cui si innesta quello che penso. E raggiunto quel mare, tu... Quindi stiamo parlando dei confini della Turchia con di fronte la Grecia? Sì, sì. No, la parte di Turchia davanti al Libano, diciamo, davanti al Libano e sotto la Turchia, per iniziare, poi anche in altri posti. Aspetta, perché collochiamoci lì. Qua inizia appunto la mia ipotesi, mettiamola così, ok, giusto, perché bisogna, non è una teoria scientifica, è un'ipotesi, e cioè che una volta che si è, la direzione di espansione quella, è stata premiante, la direzione verso est sarebbe stata penalizzante, perché la direzione verso ovest consentiva appunto questa, di sfruttare il navigabile. Un navigabile a periplo, un navigabile a esplorazione costa a costa, alla fine periplo per me, in questa concezione che stiamo usando oggi, significa il costa a costa. Cosa significa? Come nasce quindi l'economia relazionale? Attraverso lo spostamento via terra è molto più complicato espanderla, attraverso lo spostamento via mare puoi ampliare il raggio del raggiungibile e quindi puoi, attraverso questa navigazione costa a costa, raggiungere posti più remoti. Ora, questi posti più remoti non sono raggiunti tutti dallo stesso navigante, tutti dalla stessa barca. La macroeconomia moderna pone al centro, non so se l'individualismo metodologico di Hayek, ma comunque pone al centro l'individuo, cioè l'azione decentrata di una marea di individui e di corti che si susseguono nel tempo, di generazioni che si susseguono nel tempo. Dobbiamo pensare, a mio avviso, a una marea di persone che si spostano per un motivo non di turismo, si dicevo prima, cioè per un motivo economico, e raggiungono un paese sulla costa un po' più in là, attraverso il navigabile sarebbe stato molto faticoso farlo via terra, per portargli delle merci. Chi riceve quelle merci a sua volta può fare di andare sia nel paese di provenienza del primo, ossia andare nel successivo. Quindi c'è una specie di piccoli archi che si vanno disegnando come un algoritmo esplorativo. Io non so se qualcuno ha mai utilizzato qualche programma tipo, non so, MATLAB, programma di ricerca del massimo di una funzione, cose del genere. Con il computer si fanno degli algoritmi iterativi che vanno cercando localmente, per esempio in quel caso, qual è il massimo. Bene, ci sono stati dei piccoli algoritmi iterativi che erano gli umani che andavano muovendosi per un motivo che, ok, a volte è stato poi anche la conquista, ma non stiamo parlando della nascita dell'economia razionale attraverso gli eserciti che vanno una botta a cercare di conquistare. Stiamo parlando di come che si sviluppa questa cosa dal basso che poi consustanzia la stessa società, cioè i valori della società, i valori comuni di una cultura mediterranea. Quindi c'è questo spostamento luogo-luogo, costa-costa di questi naviganti, che già dà un primo impulso. Ma cosa succede poi ulteriormente? Qual è la geografia di quel luogo ulteriormente? L'Egeo. Voi sapete perché la bandiera della Grecia ha strisce bianche? Che cosa significa la bandiera della Grecia? Per i greci, chiaramente. Significa il mare e l'infrangersi delle onde bianche contro contro le isole che ci sono. Cioè, la bandiera della Grecia, cioè il territorio della Grecia è il mare, ok? E sono le sue isole. Sono tante isole fra il mare, la concezione della Grecia. Infatti, quelli che sono dell'entroterra vengono chiamati bulgari dal resto dei greci. Non so se è fantastica sta cosa. A Napoli possiamo andare da Gheorgo a via Bellini a mangiare un'ottima pita, consiglio a tutti. E Eleni e la sua fidanzata, lui che è cretese, la sfotta è una bulgara. Non siamo stati pagati per questo per questa pubblicità. Questa pubblicità, no, vabbè, viene spontanea. No, sono amici, chiaramente, ci va piacere. E se lo meritano tutto. Ma quindi qual è il punto di questi piccoli della presenza di queste tante isole della Grecia? Perché è una chiave di rivolta? Perché, a motivo di tutto questo che stiamo raccontando, nasce la cultura occidentale, nasce esattamente lì nell'Egeo? Perché il navigabile rende collegabili tutte queste singole isole che non sono dotate di grandi approdi. Siamo ancora nelle barchetelle, nelle piccole imbarcazioni che si spostano da una parte all'altra. Per cui, però, ciascuna produce la sua cosa. Ciascuna di queste isole produce la sua cosa. E che cosa si genera? Si genera la relazione fra tutte queste punti puntinati che sono tutte queste isole. Lo scambio, lo stiamo vedendo in questi giorni, ecco, questa è una buona notazione da fare. Vi rendete conto come l'economia sia scambio? Cosa sta mancando là fuori adesso? Lo scambio. Quindi manca l'aumento di valore che ciascuno dà con il fatto semplicemente di fare la propria azione e relazionarla con l'altro. Cioè, questo è l'economia, è scambio ed è attribuzione di valore convenzionale. Non abbiamo cioè si generavano come se fossero dei redditi, in quel caso potevano essere monetari o reali, quello che era, quindi delle cose che tu poi potevi mangiare o con cui potevi poi comprare del mangiare o costruire una casa, e si generavano attraverso questo scambio. Ma non era soltanto, cioè aumentava, quando si parla di crescita del PIL, alla fine quello è, perché oggi il PIL è caduto, perché non c'è più scambio, non c'è più quindi questo aumento endogeno del valore delle cose che fai, che è tutta una convenzione, tra l'altro, questa è un'altra storia. Quindi in economia si chiamano gains from trade, cioè una cosa molto facile, guadagni dallo scambio, dal commercio. Se io faccio questo scambio, cioè un guadagno che sono sia dal punto di vista materiale che sia dal punto di vista dell'utilità marginale, personale, perché chiaramente se io produco solo mele ma vorrei anche qualche vaso di terracotta oppure qualche banano, qualche pera in quell'epoca là. Ci sa chi produce solo pere, posso fare uno scambio e aumentare la mia utilità marginale, direbbero gli economisti, aumentare la mia utilità, perché così almeno mangio due cose diverse. Questa preferenza per la diversità si dice in economia. Ebbene, quindi questo gains from trade sono alla base della nascita di questa economia relazionale. Perché relazionale? E perché voglio dire due concetti adesso: perché economia relazionale e perché perché diciamo che nasce lì la civiltà occidentale. Vabbè, e appunto un emblema di questo fatto di perché nasce lì la civiltà occidentale è dato dal fatto della rosa dei venti. Cioè la rosa dei venti ha nomi che è una cosa che conferma un po' tutte queste teorie, ha nomi che sono tutti centrati nell'origine dei loro nomi, poi è stata modificata con la presa del mondo ellenico da parte di Roma. La rosa dei venti ha tutti i nomi che sono centrati sull'Egeo. La rosa dei venti è centrata sull'Egeo. Il maestrale è il magistrale, perché poi a un certo punto, anche a leggerlo dall'Egeo, era Roma Magister, quindi veniva in quella direzione, che quindi dovrebbe essere nord-ovest, se ricordo bene la rosa dei venti, ma per folle, sto ragionando a logica. Oppure lo scirocco dalla Siria, il libeccio dalla Libia, mi sembra di ricordare questa memoria che ne è. Quindi la rosa dei venti lì collocata vuol dire che lì era l'orientamento del navigabile, cioè l'enfasi del navigabile, questa cosa che ancora manca agli economisti, questa cosa fondamentale. L'altra cosa è il concetto dell'economia, cioè questo secondo me è un grandissimo indizio per capire dove nasce l'economia occidentale. Potremmo parlare ancora, però dopo cerchiamo di ricordarci di questa questione qua. Volevo dire però prima di tutto parlare di economia relazionale, perché l'economia relazionale che cos'è? Quando io faccio queste esplorazioni costa a costa per andare a cercare lo scambio, poi arrivando in un porto, sebbene limitrofo, però comunque non è proprio casa mia, potrebbero scannarmi, prendersi tutto il bottino, uccidermi e ciao, finisce ogni relazione. Questo però non è neanche nel vantaggio. Vedete come stiamo facendo l'approccio di decentrato, cioè guardiamo agli incentivi delle singole persone che fanno l'azione o ricevono l'azione. Non è neanche nel vantaggio di chi riceve la merce, scanna il venditore, diciamo così, e si impossessa di tutta la merce gratis, perché nessun altro venditore gli andrà più, mettiamola così. Quindi rimarrebbe nella sua autarchia. E abbiamo detto che ci sono dei vantaggi dallo scambio. Quindi anche chi riceve, no? Cioè, c'è un vantaggio reciproco in questa azione. Esiste questo fatto della relazione fra posti. Cioè, insomma, cosa garantisce quindi il fatto che il venditore non sarà scannato? Sarà successo tante volte che è stato scannato. Però se ha vinto quest'altra maniera, ha vinto nella media quest'altra maniera, vuol dire che c'era un'altra forma di garanzia, che non poteva essere nessun diritto internazionale all'epoca, perché non esisteva, non poteva essere WTO, World Trade Organization, non poteva essere. Esisteva quindi una garanzia che derivava dal fatto di conoscersi, se vuoi. Un'economia relazionale, che significa questa cosa, cioè appunto un rispetto reciproco fondato su una relazione. Ancora più interessante, prima vi ho detto che questo algoritmo esplorativo di conoscenza era pezzettino dopo pezzettino e non era neanche compiuto dalla stessa persona. Cioè questa economia relazionale aveva un effetto anche, aveva delle proprietà anche transitive. Cioè non era soltanto che siccome A conosce B, allora la relazione è fissa là. Cioè quando poi la merce arriva al punto C un po' più avanti, ci sta incorporato nell'azione di B, magari portata da B in quel caso, ci sta incorporato l'economia relazionale AB nella relazione BC. Non so se mi sono spiegato. Quindi l'economia relazionale era quello che teneva insieme tutto, ma non è che tutti andavano dappertutto, erano come tanti piccoli anelli di catena che potevano, cioè qualcuno poteva anche raggiungere tre anelli dopo, Però immaginiamocela come una catena normale, e diventa più facile quindi figurarsela, visto che stiamo in radio. Una catena attorno alla costa. Una catena attorno alla costa, ma poi pensa anche a, dicevo, alla cosa moltiplicativa che sono questo fatto delle isole greche. Cioè le isole greche hanno fatto veramente l'esplosione della cosa. Perché c'è questo posto piccolo che diventa un posto che, appunto, fondato sul navigabile, che diventa un posto di immediata uscita e commercializzazione. Poi vedremo anche come questa cosa cambia, perché poi con lo sviluppo della tecnologia navale, voi avete visto in Grecia, cioè quando andate in Grecia tutti quanti vogliono, le isole greche vogliono mangiare il pesce, cioè questa è una cosa terribile per me, tutti quanti poi sono delusi, ma qua fanno solo l'agnello. Ma com'è che fanno solo, siamo sotto un'isola? Per me la Grecia è una spiaggia, è una grande spiaggia, vengo a questa isola, per me è una spiaggia. Ragazzi, quelli sono posti senza approdi, sono isole piccole, senza approdi. Poi parleremo del valore dell'approdo che ha premiato il Sud Italia e differenzialmente Calabria da Sicilia e Napoli, ne parleremo assolutamente, questo è fondamentale. Bellissimo. Perché la Calabria è una specie di isole della Grecia, cioè l'isola della Grecia non hanno baie naturali accoglienti, tranne se pensiamo appunto perché poi Creta si è sviluppata di più, o perlomeno in origine, comunque non ha baie naturali, e quindi l'assenza di baie naturali può portare soltanto a una piccola pesca, se volete, ma nel senso l'economia di quei posti era un'economia di terra, e quindi a maggior ragione quello che consentiva questi scambi era, cioè attraverso delle imbarcazioni comunque non grandi, dicevo, è questa commercializzazione dei prodotti di terra con quello che l'altra terra, l'altra cultura faceva, creando anche una omogeneizzazione. L'omogeneizzazione che deriva, questo è un altro fondamento della cultura comune, omogeneizzazione che deriva sia dal fatto che a quel punto poi, per esempio, due isole in prossimità che erano state quasi separate sempre prima della navigazione, se volete, iniziavano a consumare le stesse cose, perché io produco mele, tu produci pere, poi adesso tutte e due consumiamo mele e pere, e magari io poi che cosa faccio, l'altro pezzo della storia? Inizio anche io a piantare pere, perché magari mi conviene piantarmele da me piuttosto che andarmela a comprare, perché vedo come sta fatta quella cosa, ma questo significa anche il modo culturale, cioè vedo come sta fatta. E questo, per esempio, presiede tantissimo, possiamo anticipare i tempi, questa l'avevo messa nella terza puntata, presiede tantissimo all'architettura. Cioè esiste un'architettura mediterranea, sempre del basso Mediterraneo, che è completamente disconosciuta come concetto. Io quando vedo quelli delle università che ragionano architettura mediterranea, architettura mediterranea, e non ne capiscono niente fondamentalmente, perché se voi andate a Salina, a Marrakesh, a Malta vista dall'alto, non vi fate ingannare dalle facciate di plaster di intonaco inglese, mettetevi sopra la Valletta, oppure mettetevi a Pozzuoli, nella piazza di Pozzuoli, ma guardate dall'alto, oppure guardate alle case dietro piazza Plebiscito, dietro la chiesa di San Francesco di Paola, piazza Plebiscito qui a Napoli, ci sono una serie di cubicoli, no? Sparsi, sembra il razionalismo poi recente, le due cose non sono collegate da nessuna scuola, ma infatti non hanno probabilmente un collegamento, però in ogni caso come similitudine, quella maniera di costruzione delle cose è anch'essa deriva dall'osservazione, è una speculazione la mia, è un'ipotesi, però da questa comunanza mi puzza che non è casuale, perché chiaramente io osservo come stanno fatte, girando in Mediterraneo, come stanno fatte delle cose, e magari inizio a copiarle, cioè nel senso poi vado a casa, certo, e mi sono impossessato di quella cosa, ma lo stesso per le musiche, cioè questo è un discorso che non finisce mai, che nel festival abbiamo provato anche a sviluppare, cioè la linea melodica di questo basso mediterraneo è una costante, e se ci muoviamo in orizzontale, bisogna recuperare i valori di legami orizzontali, se ci muoviamo in orizzontale noi recuperiamo una linea di continuità che deriva da queste cose qua. Il problema qual è? Che se ci mettiamo con il sito di Alan Lomax, che ha fatto questa ricerca nel Mediterraneo, e quindi vediamo che ancora negli anni 50 ci muoviamo lungo una linea orizzontale dall'Andalusia fino all'Asia Minore, vediamo che c'è una specie di continuità melodica nelle musiche che lui rappresenta in questo sito che lui ha. Ma Ma se invece prendiamo questi siti più moderni che fanno le radio libere, adesso questa è una radio libera, che sono oggi attive, non le musiche di ieri, che sono mappate nella mappa di Alan Lomax, anche soltanto degli anni 50 o 60, prendiamo le musiche di oggi, noi arrivato all'Italia del Sud, adesso anticipando questa cosa, lo so, notiamo una discontinuità pazzesca nella linea melodica, cioè proprio là si infrange, perché noi il Sud Italia siamo stati, nell'Italia del Sud abbiamo subito una totale cattura, un soggiogamento culturale, siamo stati intrappolati tutte in un'altra, abbiamo abbandonato questa linea melodica che era appunto comune, e abbiamo abbandonato a chi è stato lasciato appunto la proprietà della matrice culturale, che sono chi vive per esempio ai quartieri spagnoli o peggio, insomma, cioè, peggio, sono posti fantastici, però sono persone che hanno una inferiore opportunità di sviluppo personale inferiore, in quanto per esempio vogliono continuare a parlare la loro lingua, il napoletano, e quindi per esempio non riescono ad accedere a un posto pubblico, ma al massimo di bassissimo livello possono accedere a un posto pubblico, e quindi hanno minori opportunità di sviluppo personale, e quindi fanno degenerare la forma in cui questa linea melodica viene oggi proseguita. Va bene, questa è tutta un'altra storia, però voglio dire che esiste, poi ne riparliamo, questo è un argomento che mi interessa tantissimo, però esiste quindi questa continuità che deriva dall'imitazione di tantissime forme, architettura, mangiare, io per esempio i pomodori che adoro di più sono quelli che sono facilmente deperibili e con una buccia fine, si chiamano i pomodori di Belmonte Calabro e non hanno una commercializzazione. A Sorrento, nella penisola sorrentina, hanno fatto una specie di mutazione di questa cosa qui, rendendoli minimamente più resistenti, ma appunto minimamente, non riescono ad avere una commercializzazione. Non sono veramente i cuori di bue, che sono quelli là più resistenti ancora. Questi pomodori così fantastici, con il rosso vivo, enormi, che non hanno una possibilità di commercializzazione, dicevo, perché sono estremamente deperibili, andando a vivere un mese a Creta, per capire poi alla fine Creta, nel 2008, ci ho trovato questi stessi pomodori quell'agosto. E questo mi sono rimasto completamente affascinato, perché non può che essere frutto di questa relazione, cioè, quindi era il seme che aveva viaggiato lungo il Mediterraneo, quindi era proprio una consustanziazione dei modi. Ci sono alcuni elementi che fanno questa consustanziazione. Tra poco arriviamo anche a dire di come che si arriva al Sud Italia, queste cose qua, però anticipo che per esempio altre cose dei viaggi che ho trovato è che per esempio degli elementi emblematici, cioè il melograno purtroppo, cioè non lo sappiamo, ma la mela di Adamo ed Eva era un melograno, perché appunto è il simbolo della fertilità, con tutti quei specie di semi che aprendo escono. Nelle raffigurazioni dei tappeti persiani quello è raffigurato il melograno, nel Corano è il melograno, ogni isola del Dodecaneso, ogni casa delle isole del Dodecaneso deve avere piantato un melograno, e fra poco in questa casa nuova dove sto mi pianterò un melograno pure io, perché è il simbolo della fortuna. Cosa vuol dire granata? Anche noi a Napoli chiamavamo questa cosa a granata, e mo purtroppo addirittura la chiamano manco melograno, la chiamano melagrana, cioè proprio soggiogamento culturale al massimo. E ci dicono che così vendiamo di più, e noi lo chiamiamo come ci dicono che lo dobbiamo chiamare. E questi sono i modi cioè sono modi endogeni di soggiogamento culturale, non mi chiedere endogeno, sono modi che derivano tutto il Mediterraneo è intriso di questa granata. Oppure se andiamo a Patmos, per esempio, nell'isola di Patmos, ci ho trovato dei croccantini di sfoglie di mandorla. Ora, la sfoglia di mandorla era quello in cui mi avevano avvolto il gelato, i tranci di gelato a Damasco, però queste piccole sfoglie di mandorla, nel senso tagliate molto fine, orizzontalmente, ma io ho trovato i croccantini di sfoglie di mandorla a Patmos, in provincia di Agrigento, e a Sehin, in provincia di Murcia. Cioè io non ho trovato in nessun'altra parte, poi anche a Catania, ho visto che ci stanno, però insomma, com'è possibile che sono posti che apparentemente non dialogano fra di loro? Come invece è possibile questa cosa di alta conservazione, notate, come i croccantini di sfogliatina di mandorle sfilettate, ecco, sbagliato a dire, non sfogliate, sfilettate, cioè nel senso ostie di mandorle, si trovino in questi tre posti così remoti. Ognuno pensa magari di averli inventato lui, potrebbe anche essere, chiaro, però c'è un'imitazione reciproca. E questo trasliamola a livello immateriale. Com'è possibile pensare che fosse soltanto un livello materiale quello di influenza reciproca? A livello anche immateriale, quindi una consustanziazione. Adesso sto dicendo che ogni piccolo arco che veniva compiuto si intrecciava con quello degli altri, il ragionamento degli anelli delle catene di prima. Quindi era tutta un'economia relazionale che si fondava quindi non su istituzioni anonime predeterminate, ma si fondava su si reggeva su questa economia delle relazioni fra chi partecipava di questa economia. Ed è quindi una cosa che fa crescere il livello di reddito le persone e fa crescere il livello di comunanza, oltre che anche fa crescere non soltanto di comunanza, fa crescere proprio in termini di raffinamento delle pratiche comportamentali. Perché chiaramente a volte questo può assumere anche una accezione degenerativa, però si imitavano anche i propri modi dell'altra parte, cioè nel senso era come quando tu vivi fuori Napoli, vieni a prendere un caffè e ti sembra buonissimo, ma se tu vivi a Napoli lo sai benissimo, quel bar lì, quello fa il caffè sì buono ma un po' meno buono della, cioè nel senso inizia a affinare. Se fai tanti bar, ecco sono come questa cosa e fai costa tutti i bar come ci siamo ridotti, tu inizi a capire che c'è differenza, la inizi a apprezzare la differenza fra i vari bar, no? Certo, e quindi costa, la navigazione costa è fondamentale. Questo concetto lo condivido, cioè adesso un po' l'ho passato, ma non è vero, lo condivido con il mio amico Gaspare Balsamo, che saluto, che appunto è uno che pratica ancora tutta questa navigazione costa. E quindi vedete come l'economia relazionale è questo. Perché è importante parlare di economia relazionale? Perché l'economia relazionale spiega perché il sud di questo mondo di basso Mediterraneo, quindi perché nasce la civiltà occidentale lì, perché fiorisce, perché esiste praticamente il liceo classico, come devo dire, cioè che si parla di quelle cose. Io purtroppo non ho fatto il liceo classico, ma anche per fortuna, perché così ho una visione libera di quelle di queste cose qua. Non ho una visione vincolata dalla lettura che ne viene data, molto rigida, che ne viene data appunto all'interno di questa accademia, se vuoi. E infatti per me, cioè chiunque parla di Mediterraneo o di cose greche, insomma, non lo so, cioè perché c'è sempre questo concetto di sapere, ma non lo so, avete un po'... ci sono dei problemi lì. Vabbè, comunque... Non so chi sia. Che cosa è successo, Greg? No, ho messo... perché, allora, effettivamente, scusate, non l'abbiamo detto inizio puntata, sono manchevole io, ma siamo in diretta, quindi se volete fare domande potete scrivere al mio numero di telefono. Se mi conoscete, mi chiamo Greg, probabilmente ci stanno ascoltando solo persone che mi conoscono, quindi potete scrivermi direttamente. Il mio numero è 338-538-5301. Ovviamente non ve lo siete segnato, però almeno l'ho detto, c'ho la coscienza a posto. Altrimenti ripetilo. 338-538-5301. Potete scrivere domande, apprezzamenti a Luca Sessa, oppure anche messaggi di odio. Le ragazze possono chiedere un appuntamento a Greg. Mettetemi in fila. Mandate anche un vocale se preferite, altrimenti c'è anche la mail della radio, che è radioquarantella@gmail.com. Oggi stiamo parlando un po' della, a quanto ho capito, alla fine stiamo parlando un po' delle origini della nostra cultura, cioè, certo. E siamo partiti dalla Mesopotamia sostanzialmente. Abbiamo capito perché si chiama la trasmissione sotterranea Periplo Sud, e abbiamo parlato di questi movimenti costa a costa lungo dalla Turchia, passando per la Grecia. Molto interessante come le isole della Grecia abbiano formalmente dato da cui siamo nati noi. E adesso siamo arrivati al punto... non lo so, mi sa che il prossimo dobbiamo step... Dobbiamo integrare il Sud Italia, adesso dobbiamo integrare il Sud Italia. Il prossimo step siamo questa città, Napoli. Bravo, Grande Greg! Ho seguito! Grande Greg! Io sono un po' tardone, quindi... Voi dovete sapere che qua, diciamo, lo slogan Grande Greg è nato in tempi non sospetti e più praticato in asilo. Sì, L'asilo è questo posto di Napoli dove ci siamo conosciuti e ci frequentiamo. Ex asilo Filangieri di Napoli, un bene comune urbano, sostanzialmente uno spazio aperto dove chiunque può proporre, fare proposte e entrare in assemblea. È uno spazio gestito in maniera assembleare. E non so se questo c'entra qualcosa con quello che stiamo dicendo. Vabbè, riguardo l'economia. È l'occasione di tutto questo, è il motivo per cui è esistito poi tutto questo, quindi va bene fare questa cosa. E, la cosa che adesso c'è da dire è integrare il Sud Italia in questa storia. Ok, abbiamo interrotto un attimo, ma possiamo riprendere da qui, perché chiaramente in questa esplorazione un po' costa a costa è interessante prendere la cartina del festival, se qualcuno la vuole vedere. A noi ci hanno sempre raffigurato fin dalle elementari l'Italia come ci hanno raddrizzato l'Italia. Cioè c'è la famosa domanda che io poi qualche volta faccio così per sfizio, ma la gente se pensa che sia un divertissement: se sta più a est, Greg, sta più a est, quale città sta più a est? Quale città sta più a est? Napoli, Trieste, Firenze, Ancona, no, Ancona non lo so. Più a est? Sì. Napoli sta più a est. Ma lo sapevo. La differenza tra Napoli e Trieste. Era una domanda tra sì, voi. È ovvio. Napoli, Trieste, sta più a est Napoli. Noi ci hanno sempre raddrizzata, fin dalle elementari, queste cartine cacchie che tenevamo appese nelle aule delle scuole elementari, d'Italia raddrizzata. Non vi dico quando... Allora, tutti questi concetti di cui sto parlando hanno 20 anni, 15-20 anni, però dopo 8 anni che sto a Napoli, finalmente arriva il grande Greg. Per me ero pronto a parlarne già al primo anno, però non trovo accoglienza perché è troppo nuovo questa prospettiva. Comunque, a Napoli veramente un inedito che riesco a parlare di questa cosa qua. Questa raffigurazione che esiste la raffigurazione che ci è stata data è sempre molto costretta. Quando dicevo appunto 2008 cercavo un'immagine che fosse forte, presi il sito della NASA e ci iniziai a fare dei ritagli sulla planimetria del mondo, perché non riuscivo a trovare un'immagine di Mediterraneo. Non c'era un'immagine di Mediterraneo disponibile che includesse quindi anche la parte giù e la parte destra. Non c'era niente. C'era soltanto sempre che finiva che non si vedeva manco la Libia. Cioè un po' di Libia si vedeva perché sale. E base, cioè giù si vedeva Gerba, scusa, no, Tunisia, non manco la Libia. Quindi non c'era... L'unica cartina che avevo trovato del Mediterraneo, sapete qual è? A casa di un amico di Mignano Montelungo, che viveva a Roma, dove stavo in quel periodo, ci ho trovato una cartina di epoca mussoliniana, proprio una cartina di epoca mussoliniana, perché in quel momento è come se l'interesse ci fosse a guardare come era fatto il Mediterraneo. E io quasi gli dicevo: ma me la puoi regalare per favore, perché io non riesco a trovare una cartina del Mediterraneo. Oggi stanno uscendo qualche rappresentazione in più, ma non è soltanto questo. Prendete una cartina del Mediterraneo, io appunto avevo fatto vari ritagli, volevo fare una mostra nel quartiere dove vivevo, a Monti, di questi ritagli. Alla fine questa immagine, non ho fatto questa mostra, ma l'immagine principale l'ho usata per la rappresentazione del festival, che si legge festival perché c'è questa unità di fonema BV, è un unico fonema BV in questo ambito del Mediterraneo, e l'accento sta sempre sulla ultima, sempre in questo ambito del Mediterraneo. Festival si pronuncierebbe quindi quella parola là. Bene, in quel caso lì vedete che le propaggini sud dell'Italia sono tese, guardatele, sono tutte oblique, sono tese. Se leggiamo al contrario, cioè mettiamo sotto in coppa, soprattutto la cartina dell'Europa, vediamo come sta tesa verso la stessa tensione quasi che hanno il Peloponneso verso le isole greche. Cioè c'è una tensione verso là, verso quel mondo là. Quindi se noi leggiamo al contrario, cioè come se da lì, dal centro dell'Egeo, dal centro della Rosa dei Venti, ci muovessimo esplorativamente, semplicemente quelle erano propaggini come il Peloponneso. Propaggini come il Peloponneso. Quindi la cosa più normale è che si iniziasse a esplorare anche lì. Poi appunto, non vi dico, le insenature che c'erano, cioè Taranto, il mare piccolo e il mare grande. Io purtroppo non sono mai andato a Taranto, ragazzi, questo è troppo grave, perché il mio amico Andrea Lamorgese, che gli dico già quando l'ho conosciuto 20 anni fa, dicevo devo venire con te a Taranto, cioè, poi gli hanno messo vabbè Vital Sider per altri motivi, Lilva scusa per altri motivi, però ne parliamo dopo di questo, che sta nell'appunto Vital Sider, se volete anche Ilva, la quarta puntata l'avevo messo, e quindi immaginatevi tutte queste insanature di dove ti puoi riparare, la grande insanatura che è lo stesso Marionio, e sono semplicemente quindi propaggini da esplorare, e quindi c'è tutto un mondo antico, cioè Ulisse per questo gira tutti quei posti là, perché erano posti che già nell'oralità di quel mondo esistevano, erano stati esplorati, ma non come turismo, non come re che vado girando perché c'ho i soldi, cioè perché non tengo niente da fare avventurosamente, non era Sector No Limits a fare l'avventura, quella cosa là, era necessità, no, era un tramandare una storia le cui nozioni erano fondate su questa voglia di espansione, se vuoi, cioè la stessa che aveva mosso i coloni, che per esempio da Achimi sono venuti a fondare prima Pitecusa, cioè Ischia, da Achimi Grecia, e poi Cuma, e poi si sono venuti a Napoli, cioè quindi alla polis a Napoli, che è diventata prima Palepoli, poi Neapoli. Vabbè, queste sequenze qui, cioè ci sono dei moventi che dico non possono essere pensati come turistici, no? Cioè sono moventi economici che hanno mosso quelle cose là. Poi questo fonda la base, il sostrato su cui si crea la storia di Ulisse. Cioè non è che Omero o quelli che avevano composto le cose che Omero ha raccolto e sistematizzato fossero quindi tutti anonimi, chiaramente, no? Come le bellissime canzoni del Sud Italia che sono tutte fondate da... Quindi non c'era nessuno stronzetto che dice ma faccio questa cosa così, poi vendo tanti dischi e... cioè, nel senso era tutta una sedimentazione anonima di cose, vabbè, lasciamo perdere questa cosa. Erano i cantastorie? No, adesso dicendo sì, anche gente che parla di questa cosa, che crea, che sa a casa, non è che magari è un contadino, non è un cantastorie professionale, le cose che si sono sedimentate, vabbè. Comunque, quindi questa cosa qui, non ci perdiamo troppo, questa cosa qui, questo algoritmo esplorativo, l'abbiamo detto prima, raggiunge il Sud Italia a un certo punto. Cioè il Sud Italia è l'estremo di questo campo di gioco che è formato che è centrato sull'Egeo, mettiamolo così, che raggiunge per esempio anche, attenzione, cioè il mondo classico questi classici raggiunge, di liceo classico, dei classicisti, raggiunge anche la Georgia, ma nessuno lo sa che raggiunge la Georgia, perché tu costa costa ti facevi il Bosforo e costa costa facilmente arrivavi in tutta questa Anatolia vuol dire est, semplicemente in greco, quindi ti muovi verso destra, cioè ti muovi verso est, e cioè la parte est del tuo mondo è l'Anatolia. Bene, se tu vai in cima all'Anatolia, tu raggiungi a un certo punto i luoghi di Medea, cioè Batumi, cioè semplicemente siamo ancora nella parte bassa del Mar Nero, non è neanche la parte alta, quindi era completamente integrato nel mondo classico, ma non nell'entroterra, se volete, di quella parte lì. Ma sto parlando della parte invece costiera di quella parte lì. Allo stesso modo, quindi, il Sud Italia viene incluso. E stiamo arrivando a perché poi l'economia relazionale ha una particolare fioritura in alcuni luoghi dell'Italia del Sud, non nell'Italia del Sud, in alcuni luoghi dell'Italia del Sud. Notate come in tutta questa rappresentazione un posto come Marsiglia risulti un unicum quasi, alcuni posti come Marsiglia o alcuni posti come Valencia della Spagna risultino degli unicum un po', cioè erano stati raggiunti come la Sardegna, no? Erano stati raggiunti dai Fenici, però che erano dei grandi navigatori, grandi commercianti chiaramente, ma sono posti periferici rispetto a questo mondo, sono molto lontani. L'economia di muoversi anello dopo anello, quello erano anelli molto lontani, era come andare su Marte in quell'epoca là, quindi la spedizione su Marte la potevi fare, però era una spedizione, non era un costa a costa fino a là, con la continuità poi, perché il punto è anche la continuità di cose che lungo la costa possano passare il testimone, cioè come il telegrafo senza fili, no? Che può essere di merce, di valori, cose del genere. Quel mondo lì era molto remoto, per questo io non lo includo fondamentalmente nel basso Mediterraneo, non condivide quella stessa scintilla, è stato anche poi influenzato da altre cose, quel mondo nord Mediterraneo. Venezia la rispetto tanto, quell'enorme l'Adriatico lo vedete, basta prendere una cartina un po' antica, c'è scritto Golfo di Venezia, non c'è scritto Mare Adriatico, è un'invenzione recente. E quello lì è stato molto esclusivo. Venezia la rispetto perché è piena di Mediterraneo, ma ha avuto un atteggiamento molto estrattivo dal Mediterraneo. Genova invece è piena di Mediterraneo e le sue manifestazioni, per chi conosce Genova, io l'ho conosciuta molto a fondo Genova e l'apprezzo tantissimo, e sono piene di pensiamo soltanto alla cosa delle ceramiche, cioè il blu mosca, la mosca blu di Genova, oppure tutte le cose che venivano fatte per i naviganti, i prodotti, sapete, l'arte dei canditi di Genova, tutte queste cose, o la biscotteria di Genova che è uguale a quella di Castellammare di Stabia, cioè quelle per i naviganti, vabbè, comunque. Che senso per i naviganti? Vabbè, tutte delle cose che tu potevi dare a chi si imbarcava per alimentarsi, che si manteneva, okay. non deperibili, delle cose non deperibili. Vabbè, insomma, questo ha a che fare con quello che si dice, che vengono chiamate le repubbliche marinare pure un po' più avanti, però non stiamo parlando di... Torniamo un attimo, senza divagare troppo, però volevo fare queste citazioni di questi luoghi, perché sennò sembra che è parziale la mia visione. Nel senso, è parziale chiaramente, come tutto nella vita, però... non è che non ci penso agli altri posti, voglio dire, o che non li abbia visitati, ma ci sono il punto sulla fioritura della Sicilia e di Napoli, ok? Per quanto riguarda la Sicilia e Napoli, cioè io partirei dal fatto che i greci stavano a Napoli quasi, no? Cioè, io mi ha sempre impressionato quella statua del Nilo. Adesso ho avuto qualche nozione che forse mi fa dubitare di questa cosa, però ho sempre percepito la statua del Nilo, che sta a Piazzetta Nilo a Napoli. Dice, ma com'è che questa statua del Nilo ha la forma, ha delle sembianze occidentali, di un uomo occidentale, se sta al Nilo? E chiaramente perché stiamo parlando di un mondo, cioè, nel senso, la risposta ce l'ho subito, la domanda subito segue una risposta che sarebbe chiaramente... il Nilo, cioè l'Egitto prima dell'invasione della costa nord dell'Africa da parte degli arabi, e quindi 634, mi ricordo, i numeri precisi sono sempre incerti per me, ma 634 dovrebbe essere, nel senso di storia, so dice, non sono uno storico preciso, è chiaro, però comunque cerco di capire delle cose al di là delle nozioni. Erano occidentali, erano greci, fra l'altro, non so, io ho passato molto tempo in Cirenaica, un mese in Cirenaica, bellissimo, 2004, epoca Gheddafi, e la Cirenaica è un posto grecissimo, è fantastico. Dov'è che è la Cirenaica? La Libia è divisa fondamentalmente la parte nord, perché sotto questo famoso scatolone di sabbia, ma è vera questa cosa. La Libia è fondata su, cioè si divide a sinistra la Tripolitania, viene chiamata dagli italiani così, e a destra la Cirenaica. Okay. Vedete, fa questa S, questa sinuosità, la parte più che si rinalza, che sta sotto Creta, è la Cirenaica. Sta sotto Creta, cioè quelli comunque, la Cirenaica è stata fondata, cioè è stata colonizzata, perché dobbiamo pensare che gli umani non è che stavano da tutte le parti subito, cioè sono come una specie di colonizzazioni che sono successe. Cioè se pensiamo che praticamente a Napoli pare che questi che venivano da Chimi abbiano trovato degli abitanti, che non sa sta leggenda che si chiamavano così Pitecusa, perché c'erano loro li denominavano, erano gli intelligenti della situazione, quindi chiaramente li denominavano e li hanno denominati, si dice, come scimmie, quindi da questo dovrebbe derivare il nome, una delle etimologie di Ischia. Insomma, c'erano delle persone che abitavano, ma non è che tutti i posti erano tutti quanti abitati. E Napoli, assurdamente, oggi che è sovrappopolata a causa del benessere che ha goduto nel tempo, è un indicatore di benessere, che si è di stratificazione di benessere. Ora lasciamo perdere che siamo un po' più bassi, altre storie di cui parleremo. Quindi questa cosa qui, questa adesso mi sono un attimo perso, se questa volta vedi, prendo troppe deviazioni, troppe derive. Beh, stavamo parlando di Napoli, la Sicilia. Sì, dicevo, questo fatto di questi qua che sono andati là e si sono chiamati. Vabbè, succede così. Perché purtroppo, ragazzi, se parliamo di questa cosa in una maniera lineare, non capiamo niente. Cioè, dobbiamo ragionare in una maniera non lineare, perché altrimenti non pigliamo proprio le cose. E la maniera non lineare è rischiosa, perché chiaramente inizi a capire delle cose laterali, e poi... E poi perdi questa cosa qua, perdi, cioè a me mi capita anche che poi, diciamo, aspetta, stavo dicendo questa cosa, aspetta, ma che stavo dicendo, visto che mi sono perso in altre cose che mi sembrano comunque anche rilevanti. Allora, che stavo dicendo? La Cirenaica è un posto, sì, insomma tutti i posti sono popolati, la Cirenaica, stavo dicendo, ok, il Nilo, la Cirenaica era greca, l'Egitto era greco, prima dell'invasione degli arabi, stavo dicendo questo. Sì. E ossia c'erano i mercanti greci a Napoli e stiamo di nuovo là, cioè magari l'economia relazionale in quel caso lì era arrivata fino a là perché da un lato c'erano proprio gente che si era stanziata a Napoli, ma poi anche erano delle relazioni che erano intrattenute con questi posti lontani. Ora, questi posti lontani, cioè perché Napoli e la Sicilia hanno avuto questo successo qua? Perché Panormos, il luogo dove tutti possono attraccare, Panormos è una, poi che viene, siccome gli arabi non hanno la P come suono, viene detta Balarm e quindi cioè viene deformata in una specie di cosa che va a finire in Ballarò, Balarm e Ballarò, vabbè, comunque quella parola là viene da questo Panormos, no? Cioè, perché non soltanto sono baie, quello che mancava nelle piccole isole della Grecia, delle piccole isole della Grecia, baie naturali che quindi possono dare riparo alle navi di una stazza un po' maggiore, ma Palermo come Napoli e soprattutto Napoli, grazie al fatto del Vesuvio, hanno a disposizione nell'immediato retroterra di questa grande baia, questo è un altro fatto che l'economia, che la scienza economica non ha ancora analizzato, ma io dovrei mettermi io a fare queste cose, ho troppe idee, più idee di quelle che realizzo assolutamente. Napoli e la Sicilia hanno alle spalle un'enorme pianura produttiva, immediatamente vicina, di prossimità, rispetto alla grande baia naturale di accoglienza. Quindi sono posti di una potenzialità in questa rete, sebbene fossero quasi alle propaggini del rettangolo di cui parliamo, del campo di gioco centrato sull'Egeo di cui parliamo, erano forti per queste caratteristiche fisiche che avevano. Quindi infatti oggi dicevo, ho aggiunto geografia ultimamente alle cose di cui parlavo, perché vedete che la geografia conforma tantissimo la maniera, poi le possibilità di sviluppo di un luogo, e questo fa anche la differenza enorme con la Calabria. In Calabria, parliamo un attimo della Calabria, in Calabria sono arrivati questi coloni con le loro barche che li potevano contenere a loro, hanno spiaggiato la loro barcona sulla spiaggia e poi non l'hanno potuta più muovere, perché non c'era questa baia naturale, tranne pochi posti, e se volete all'inizio o dopo, si sono anche messi un po' nell'entroterra, cioè possiamo collocare questa cosa se era all'inizio o era più avanti, che si andava a mettere un po' sul pizzo di montagna un po' più alto, non diventava un'economia marittima. Il gusto anche del sapore del pesce, sappiamo la cucina del pesce, noi a Napoli, Paolo Conte ha fatto pure la canzone, siamo mangiatori di pesce, deriva da questo, mentre in Calabria non possono fare questo. Il mare in Calabria è come le isole greche, cioè sono, la Calabria è gente di montagna, la Calabria è una lingua di montagna in mezzo al mare, lascia stare che mo tutti questi turisti che vengono da fuori, cioè loro non saltano la Calabria completamente nella geografia, cioè vanno direttamente in Sicilia. La Sicilia ha tutta questa, oltre ad essere centrale, vicina al mondo arabo per questa continuità, il navigabile lì era molto corto, la Calabria è proprio centrale rispetto a, cioè La Calabria vale quanto quelle piccole isole, no? Non ha quella, la Sicilia ha questa centralità. E quindi da lì deriva anche l'enorme contendibilità del posto crollato, ma anche l'enorme confluenza di stratificazioni, di scambi e cose del genere. Comunque stratificazioni di gente che va lì, cioè diventa un porto, perché è una baia naturale. E quindi già soltanto per esempio la cosa dei dolci, perché i dolci parlano di una la stratificazione dell'arte di fare i dolci parlano di una raffinatezza che si cumula nel tempo. Non è che sto mangiando lo zucchero a cucchiaini, sto di volta in volta raffinando, e quindi tu hai tutta una serie di cose emblematiche che sono anche rappresentative comunque di questa cosa, di perché Napoli quindi è diventata, Palermo, la Sicilia sono diventati dei posti grossi, ok? A parte poi il passaggio per lo stretto che ha anche avvantaggiato alcuni posti in quelle prossimità, vabbè. Quindi abbiamo creato il quadro di questa, del campo di battaglia, del campo di gioco dell'economia relazionale, che include strettamente cioè l'economia relazionale è quella priva di istituzioni, cioè dove non esistono le istituzioni formali. L'economia relazionale non ha garanzie di diritto privato, di diritto commerciale. L'economia relazionale è fondata sul navigabile, fondamentalmente, perché si sviluppa tutta in quell'epoca in cui solo il navigabile poteva darti. È fondata anche sulle condizioni climatiche, perché comunque è vero che andavo costa a costa, ma comunque la burrasca mi poteva comunque pigliare, io ho bisogno di riparare rapido se in una baia se non voglio morire in naufragio. Quindi è fondata anche su condizioni climatiche che non sono quelle del mare del nord, poi fondamentalmente. Quindi tutta questa economia si realizza in questo ambito, e l'economia è il viatico per la consustanziazione delle forme valoriali e comportamentali nel Sud Italia, nel basso Mediterraneo, no, nel basso Mediterraneo, quindi anche nel Sud Italia. Sono forme appunto che già in questa forma, limitiamoci già solo agli scambi, assumono una forma comunitaria, perché l'unica cosa che ti garantisce, in assenza di istituzioni, l'unica cosa che ti garantisce la non assediabilità del tuo carico di merci è la relazione con l'altro. Quindi è la comunità, se vuoi, a un certo punto di vista, no? Una comunità che si va estendendo per cerchi che si intersecano, gli anelli della catena, se pensaci proprio, si intersecano, sono intersecanti, sì, ok? Ora vi stavo dicendo che un anello può essere anche intersecato a quattro anelli più avanti o a tutti l'insieme degli anelli, non pensiamo alla catena proprio un anello intersecato con ogni singolo, certo, anello solo. Vabbè, comunque, quindi questo valore comunitario sono i valori, a parte, dicevo, la gente parla del clima, come il clima è buono al sud, per questo la socialità al sud, stai fuori, perché il clima è buono, puoi stare in piazza e quindi hai fatto sempre più comunità. Verissimo, cioè chiaramente in Scandinavia hanno iniziato a buttare il naso fuori molto recentemente, con alcuni fattori di cui parleremo, il condizionamento climatico, la capacità tessile, queste cose qua. Ma erano esclusi dalla tavola petingeriana quelli in Langobba, ve l'ho detto prima, quelli da solo non ci stavano. La tavola petingeriana, che viene presa come cosa delle strade, è la cosa del navigabile, dove poi ci saranno anche le strade scritte. Ma se no mi devi spiegare perché devo arrivare fino a laggiù, se non è il navigabile, perché deve essere così completa, come se le strade dovessero arrivare, cioè non è soltanto, era tanto importante il navigabile quanto le strade dell'epoca romana, ma il navigabile era fondamentale, va bene. Quindi dicevo, le basi di questa economia sono fondamentalmente le basi di questa società derivano da questi comportamenti economici e da queste relazioni economiche, così come nasce quindi un'economia relazionale, nasce una società che nel micro, a causa del fatto del clima buono localmente nel singolo punto, però dobbiamo capire come si sfameranno quelli di quel singolo punto, vabbè, però prescindendo da questo, vabbè, con la loro agricoltura, quello che sia, la gente è più socievole perché c'è un clima più buono, va bene, questo è un fatto che viene assodato, tutti lo dicono molto genericamente, ma il punto è anche che Poi questa socialità si consustanzia di quella delle altre attraverso questo scambio. Vi stavo raccontando prima delle comunanze degli stili architettonici, che sono sempre leggeri, questi cubicoli, queste cose, forme che assomigliano a quelle del razionalismo. Cioè, ma ci sono delle similitudini in tantissime cose. Noi parleremo di linguistica più avanti, adesso non so se vogliamo parlare oggi, perché è troppo interessante il tema della linguistica. La linguistica non è, purtroppo ho avuto un dialogo con un'amica che è professoressa di greco, del liceo classico, e abbiamo detto il fatto della lingua greca, e mi ha parlato di lessico sempre, era sempre lessico. Cioè non mi ha parlato del modo di percepire e quindi anche leggere, percepire e vivere la vita e quindi anche leggerla, e della comunanza fra queste cose qua. Non parlano di questa cosa, non si parla nell'accademia. Cioè il taglio, alla fine, tu potresti dire sono poco economista, per gli economisti sono poco economista, per i linguisti sono poco linguisti. Cioè l'iperspecializzazione alla fine ci danneggia, perché non ci fa capire tante cose, però si vive molto più felici a essere dentro un singolo sapere. Ok, perché adesso io, cioè, sono passati 7 anni e mezzo da quando sto a Napoli e finalmente, diciamo, un grande milanese, detto grande greco in tempi non sospetti, dice: vabbè, ma perché non facciamo questa trasmissione? Raccontaci qualche cosa. Ma vabbè, magari tutto questo lo prendete, lo accartocciate, lo gettate nel cestino, diceva Nanni Moretti, il romano, vedete come entra Roma in mezzo. Vabbè, Roma è un fatto molto marziale, lasciamo stare. E vabbè, insomma, nasce come molto marzialmente, no? Non stiamo parlando di questo. Vabbè, comunque c'è queste cose, insomma. Raga, qua la situazione è vastissima, possiamo parlare della linguistica quando vogliamo, cioè sono in tutti i campi si riesce, se vogliamo, a dare un taglio trasversale che servirebbe a ciascuna disciplina, però ognuno si chiude, cioè gli esempi di comunanza si trovano in ciascuna singola disciplina. E guarda, la cosa della linguistica veramente mo mi sto trattenendo perché non so se vogliamo parlare adesso o la prossima volta. Greg, dici anche un poco tu, perché se parto con la linguistica parliamo non è che non finiamo più, è bellissimo, è affascinante parlare delle comunanze linguistiche, perché è veramente, poi fra l'altro siccome la lingua la pratichiamo tutti, lo prendi subito, cioè io penso che sia di una trasmissibilità immediata il concetto veicolato attraverso la linguistica, più di quando ti ho detto quelle cose dell'architettura. Magari poi gli architetti inizieranno a dire che adesso ho fatto un post sulla pagina, effettivamente c'ho questa pagina civile meridionale, mettetevi un bel like a civile meridionale, che è una pagina plurale, ho aperto a diversi altri contributori e ho messo un post sul risanamento di Napoli, cercando di fare capire attraverso l'esperienza che stiamo vivendo in questo periodo di confinamento, come poi siamo dei soggetti molto passivi rispetto a delle misure che vengono prese di violazione proprio di ferocia, e quindi il risanamento di Napoli ancora, noi crediamo che negli anni 80 dell'Ottocento ci fu questa azione che abbatté un terzo del centro della città, che era il centro della città di Napoli, per costruire vialoni, e c'è ancora quelli che hanno studiato architettura che mi replicano quelle cose da cui si partiva 20 anni fa, cioè no, ma quello era la modernizzazione che era in atto in Italia, in tutta Europa, di mettere i vialoni e cose del genere. Tu hai messo due file di armadilli, li chiamo io sabaudi, cioè di costruzioni con grosse placche rettangolari attaccate e con enormi cornicioni sopra, come se piovesse pazzescamente da queste parti. Non hai mai visto che se avessi costruito in continuità, avessi fatto evolvere, voglio dire, non mai replicare, evolvere. Il mio concetto di base è la fioritura della base, cioè tu devi partire dalle tue radici, ma ti devi contaminare di tutto e fare sempre il meglio contaminato di tutto. Bene, quello che qui è successo al Sud Italia, poi ne parleremo, è che invece c'è stata una vera invasione su tutti i livelli, ne parleremo un'altra volta, e nell'architettura quindi è stato preso questo modello completamente altrui, perché è arrivato l'invasore 1860 che appunto, poi erano tutte società del centro-nord che hanno creato questa struttura, che era la loro struttura, l'hanno creata qui. Poi si dirà, per a scopo di controllo, vabbè, le società imprenditoriali locali erano a scopo di controllo, ma che controllo se le persone malfamate se ne sono andate a mettere, se prima stavano a 8 in una stanza, sono andate a mettere tutte quante o a 12 in una stanza un po' più dietro di queste file, oppure sono state ammassate a Secondigliano e a Scampia, cioè queste cose su una, quindi erano ancora meno controllabili, se volete. Vabbè, hanno sgombrato un po' il centro storico, ma in queste strade non ci si sono mai ritrovati. Quindi vabbè, io questa volta volevo cercare di scalzare definitivamente l'idea che quello fosse stato, è rimasto questo portato storico nella mente delle persone, che quello fosse stato un intervento di necessario, di risanamento attraverso la distruzione di tantissime cose, l'installazione di un modello altrui. Ah no, ma quella è la modernizzazione, lo facevano anche Parigi, Torino, cioè posti dove l'individuo, esiste l'individuo che si unisce su base contrattualistica. Perché a Napoli è più facile fare l'asilo Filangieri, dico io. Il nostro amico Cecè dice sempre, se ne vanta quando io dico queste, tutti i movimenti vengono, li subiamo da nord, perché al sud ci sta questa comunanza che è costitutiva. Quindi se una volta che ci andiamo a finire nel fatto del bene comune è facile fare quello, non è contrattualistico. Invece ogni cosa che si fa a nord sono atomi, cioè facendo ideal tipi, sono atomi che però poi fanno una, possono vivere individualmente, vogliono vivere separati. Guai a toccarsi veramente, diciamo, si sfiorano, guai a toccarsi veramente. Se ci tocchiamo, se facciamo un cerchio, solo se facciamo il contratto di fare un cerchio, un contratto informale. Invece al sud siamo sempre tutti uno ungollanato costitutivamente, quindi è facile, se vuoi, relativamente, non ha bisogno di un contratto informale, creare un asilo Filangieri. E questa cosa qua ha un portato enorme. E noi appunto, ragiono proprio per idea tipi, ma non lo capiamo troppo. Greg ci sta facendo una foto che mette in diretta qua. Sì, non volevo interromperti. Comunque, no, giusto velocissimamente, sono arrivato un paio di domande da... E vai, perché effettivamente, se no iniziamo a parlare di linguistica, di cose. Raga, comunque la linguistica è bellissima, non vi perdete la puntata sulla linguistica, eccezionale. Beh, perché poi io ho pensato alla linguistica, quando parli di anelli, immagino che per tenere assieme questi anelli, cioè, per forza si deve poi arrivare alla linguistica, alle contaminazioni linguistiche. Io l'ho detto che è un grande Greg. Cioè, è un grande Greg perché ci ha pigliato. Allora, c'è un intervento da Milano. Vai, vai, vai. Da tale Tommaso, che si dispiace per l'ignoranza di Greg. Ma è tuo fratello? Sì. La domanda è, non l'ho letta, quindi magari potrebbe... Vabbè. Perché... Perché se il mondo antico occidentale era il mondo mediterraneo, o comunque aveva il Mediterraneo il suo baricentro relazionale e mentale, oggi questo mare segna invece una frontiera tra due mondi pensati come separabili se non culturalmente inconciliabili. Quali fenomeni storico-economici hanno portato a tutto ciò? Abbiamo un grandissimo fratello di Greg! Grande domanda, perché questa cosa qua è difficile da introdurre, ma ce l'ha introdotta lui. E quindi che bello che ha fatto questa domanda. Allora, c'è stato un problema serie A, che è un problema di potere economico. Aspetta, scusami. Prego. Perché l'Europa oggi come continente non abbraccia il Mediterraneo nella sua interezza, sia da un punto di vista geografico, politico che mentale? È un'integrazione un po' la domanda. Sì, sì. No, siamo sulla stessa linea di risposta. Chiaramente c'è un problema di potere politico degli stati, se volete, o di sovrastati degli stati. Cioè c'è questo fatto fondamentale che a un certo punto il mondo arabo ha conquistato la fascia nord, no? Fra l'altro, cioè, interessante come io sono di Avellino e sono molto bianco, ma ci sono dei napoletani che sono molto più scuri di me, dei calabresi, cioè c'è una Zidane però dell'entroterra, berbero dell'entroterra, dell'Atlante algerino, è bianco come me. Cioè, questo, il coloramento un po' meticcio potrebbe non essere quello che gradatamente va scendendo, ma potrebbe essere anche lui un influsso del fatto che sono venuti queste popolazioni dall'est, hanno invaso la fascia del nord Africa. questa cosa qui associato alla cosa fondamentale, vi ricordate le crociate, no? Semplicemente, cioè, tutto parte alla fine anche da là. Le crociate erano un tentativo di reintegrazione, riunificazione di quel mondo, cioè perché praticamente c'è il mondo islamico, cioè, il muro nel Mediterraneo, grande fratello Greg Tommaso, è stato eretto dalle religioni che sono forme istituzionalizzate di potere, cioè strumenti per il potere, se volete. E questo appunto lo possiamo fare risalire alle crociate, ma è in vigore anche ancora oggi. Poi si va con la scusa falsissima che Gheddafi sia un abusatore della sua gente, e ho vissuto anche in Libia, appunto, vi raccontavo prima, in totale un mese e mezzo in epoca di Gheddafi. Libia is a rich country, ma lo dicevano tutti ed era vero, perché basava la sua economia sul petrolio, che i proventi li distribuiva al popolo in forma disincentivante, ecco, siamo gli incentivi individuali della macroeconomia contemporanea. Infatti se andate in Marocco ed è pieno di economia ancora medievale, tutti che fanno tutto, i fabbri, le cose, dico, il mio amico si ruppe la coppa dell'olio della Opel, chiaramente non arrivava il pezzo, ma quelli te lo forgiarono in un giorno. Il pezzo della coppa dell'olio in Marocco. Bene, in Libia questo sarebbe stato impossibile, ma forse arrivava il pezzo dell'Opel, cioè non facevano più niente perché col petrolio mangiavano tutti e davano barili di petrolio in cambio di formaggini. Quindi Gheddafi, la sua villa pesa molto di meno, i soldi che si pigliava lui pesano infinitamente meno sul bilancio dello Stato di quanto pesi quello della comunità europea, dell'Unione Europea, su tutti i singoli nostri bilanci statali dei paesi membri, perché c'è la nostra parte su quello. Cioè, chiaramente, diciamo, può darsi anche che aveva la villa in oro, ma comunque era il capo dello Stato, cioè, può darsi che fosse una dittatura, va bene, ma comunque il fatto che dice questo qua, vi dicevo, in termini di queste cose che furono usate, solamente strumentali per cercare di nuovo, è una crociata, per cercare di nuovo di integrare il dominio, perché alla fine siete il dominio di una sfera, di un altro Stato, di altri potentati, su quello lì. Non ci sono riusciti, perché non è che possono poi uccidere tutta la popolazione che vive là, o dominarla veramente, ci sono le correnti, possono iniziare a pagare soldi, ma non ci riusciranno a dominare questa scena... Insomma, in questo momento è molto remota la possibilità che si torni a una pace, già noi viviamo una Pax americana, là c'era una Pax libica, se volete, una Pax gheddafiana, che però poi è stata minata e non riusciamo a integrarli più. Quindi vabbè, comunque la risposta breve a questa storia qua è che il Mediterraneo adesso è un muro e questa cosa è dovuta alle religioni. Però questa è la risposta face value, quella alla domanda, prendendo la domanda che mi ha dato Tommaso a face value. Ma ci sono altri punti che sono fondamentali, che potremmo affrontare adesso, che sono perché poi il Mediterraneo in sé globalmente ha perso rilevanza economica. Cioè, in tutto questo quadro che vi ho detto, il Mediterraneo era quindi, tirando le somme, area economica principale, proprio per il navigabile fondamentalmente e per tutte queste interazioni che ha fatto nascere. Invece invece oggi, vediamo asintoticamente, si dice, cioè abbiamo i due estremi, oggi non lo è più, ok? Allora è esistito un momento, questo è come si dimostravano i teoremi anche in real analysis, analisi real, ho fatto due PhD di politica monetaria e fiscale, pensa che cosa incredibile, parliamo di questo. Ragionando per estremi, in mezzo c'è il punto di passaggio. Se i due estremi a un punto all'altro sono diversi, vuol dire che in mezzo c'è stato il passaggio da quando ha smesso di essere area economica principale. Quindi questo fatto qui ha costituito poi un po' un disinteresse per il Mediterraneo, se volete. E oggi io esco sempre pazzo nervoso quando sento questi questi economisti che dicono ma com'è possibile che il Sud Italia deve rivalutare, dobbiamo valorizzare la sua funzione di ponte nel Mediterraneo, cioè è come se fosse una cosa nuova che hanno scoperto adesso, no? Cioè non si capisce, cioè, appunto, siccome poi quelle economie diciamo che stanno a sud lì non sono economie molto floride nello scambio che si può fare, cioè per esempio lo stesso mondo arabo gli puoi vendere tantissime conserve come noi facciamo dalla Campania in cambio di, quando parlo di cambio non è baratto, cioè nel senso tu vendi le conserve e qualcun altro, cioè uno vende le conserve in Libia, qualcun altro compra il petrolio della Libia, però vabbè, diciamo come se fosse uno scambio, come se fossero due soggetti solo. E questo è quello che succede veramente, cioè la Libia è uno dei principali acquirenti di conserve campane, no? Via navigabile, chiaramente, che il navigabile, ecco, questi altri riferimenti che uno può andare a prendere. La cosa interessantissima è che in Italia si producono conserve di pomodoro e la Campania, ci sono la portualità della Campania, ha permesso, queste sono tracce del passato che esistono ancora, no? Il fatto che esistono questi porti ha permesso che questi due settori abbiano prosperato, non solo non siano stati abbandonati, ma abbiano prosperato, quello delle conserve dei pomodori e quello della pasta. E però non consegnano in Germania, cioè consegnano nei posti per i quali è più economico mandare via marittima, e siamo quindi nel mondo di prima, piuttosto che farlo via terra, cioè dall'Emilia Romagna consegneranno, Mutti consegnerà in Germania, e dalla Campania la Doria consegnerà, come consegna, nel Regno Unito, perché via terra Mutti ci mette molto di più a dover andare nel Regno Unito. E allo stesso modo, dico, qualcuno della Campania via Napoli e Salerno consegnerà in Libia. Questa cosa qua è più economica e fa rimanere in piedi questa struttura. Poi questa cosa è vera anche per la pasta, dicevo, perché fondamentalmente che cosa sono? Sono due prodotti non immediatamente deperibili, quindi possono prendersi quei giorni di navigazione. La mozzarella di bufala invece deve viaggiare via aereo, non può viaggiare via nave, quindi non ha questo vantaggio. Però siccome è apprezzata in Giappone, allora, dove sapete sono molto sofisticati, raggiunge anche il Giappone. Cioè, quindi il mezzo, le possibilità che ti dà il mezzo, ti costituiscono il fattore di sviluppo economico, relazionale. Cioè queste sono dei piccole fotografie, fotogrammi dell'oggi che danno qualche indizio per confermare le ipotesi mosse su tutta quell'evoluzione passata di cui abbiamo parlato fino adesso. Greg, mi volevi chiedere qualcos'altro? Sì, c'è una domanda da Adri, penso sia una domanda, un vocale, tra l'altro non l'ho ancora ascoltato, quindi magari potrebbe essere bestemmie, insulti. Ok. Rosa mi dice che invita Luca a parlare adesso di linguistica. Ah, vabbè, perché Rosa è sfaticata e non vuole rimanere un'altra settimana la prossima volta, Non lo so, perché comunque ragazzi, la linguistica è eccezionale, veramente. Sì, però abbiate anche pietà di me. No, io sono molto, cioè, è molto interessato, però il fatto, quello che pensavamo, Adri, Rosa, non so se avete da fare domenica prossima, ma l'idea è che ne parliamo magari, cioè, non lo so. Sono fatti persone, cioè, sì. No, è che o ne parliamo adesso, oppure facciamo proprio la prossima puntata, che facciamo quel tema lì. Secondo me la prossima puntata o una delle prossime, perché piglia un'altra ora, ragazzi. Cioè, è meraviglioso. Cioè, napoletano, ragazzi. Ad esempio, ieri sera parlavamo di napoletano, castigliano. Cioè, lì si apre un... Sì, comunque, cioè, come mai castigliano, una lingua riconosciuta, mentre cosa ha portato catalano, scusate. E invece perché il napoletano non lo è sostanzialmente, quali sono state le vicissitudini storiche, quindi sì ma questo, ma non soltanto questo, anche perché parliamo italiano, dicevo, oppure quali sono i tratti comuni, costanti, trasversalmente costanti fra queste lingue, cioè per quello che abbiamo raccontato fino adesso, se ci state credendo, mettiamola così, se la comunanza è di valori e se la lingua non è soltanto una tecnologia, cioè, ma proprio ci esprime la maniera in cui vediamo il mondo, allora se c'è una comunanza di vedere il mondo ci sarà anche una comunanza della lingua. E quindi esistono tratti linguistici che sono comuni fra queste lingue, ma anche fra le lingue arabe, quelle lì che sono, è incredibile. Ma se lo chiedete a queste nozioni, se le chiedete a una linguista anche di mondo arabo, le isola, ok? Cioè te le dice isolate, non le mette in un quadro unificato, come cioè, quando mi sono trasferito a Napoli pensavo, wow, facciamo la rivoluzione del sud, cerchiamo di fare capire queste cose, ma veramente è il primo giorno che riesco a dire queste cose in una maniera un po' sistematica. Certo, voglio dire, da 20 anni, da 2005 almeno la gente mi diceva di scrivere un libro, però vediamo. Hai altre domande, Greg? No, dice Rosa e Adri aggiungono, ma in realtà a livello linguistico il napoletano è una lingua perché ha una morfologia propria. Noi non intendiamo questo, cioè magari quello che intendiamo è che forse che non esiste una cattedra di napoletano a Napoli, esiste una cattedra di catalano, nonostante il catalano sia stato formalizzato soltanto prima grammatica della lingua catalana nel 1914 da un ingegnere che con i soldi della rivoluzione industriale in tasca, come Luca Sessa, che insieme a pensare ad altre cose. Quindi, cioè, siamo proprio in un mondo, dobbiamo capire certe cose, però ne dobbiamo parlare un'altra volta. No, infatti. Vabbè, io direi che magari ci possiamo anche avviare verso le conclusioni. Mi è giusto arrivato un SMS che, vabbè, te ne avrei parlato dopo magari a microfoni spenti, ma a sto punto te lo chiedo. È una domanda un po' laterale in realtà, che non c'entra neanche tanto con quello che... un po' meno, visto che l'ho tirato in mezzo io ai cantastorie. Però c'è Frank, che è una ragazza che anche lei sta dietro a Radio Virus e penso stia macchinando qualcosa attorno ai cantastorie, e ha chiesto se fa un appello per chiedere se qualcuna di noi conosce storie popolari, miti, leggende di diverse culture che riguardano il Mar Mediterraneo. E ampia, un po' laterale rispetto a quello che abbiamo detto fino ad ora. Però vabbè, dobbiamo risponderle a parte a lei. Infatti, magari poi ne parliamo. Mi sembra cioè, sì, certo che esiste, ma a parte non, posso anche non rispondere solo io, ci sono. Esatto. Tanti... Infatti è un appello che, a cui potete rispondere anche su Radio Virus. Comunque trovate i contatti e @radiovirus.org se non sbaglio, oppure radioquarantella@gmail.com se volete parlarci di cantastorie che riguardano storie che riguardano diverse culture, che riguardano il Mar Mediterraneo. Scriveteci e facciamo una vabbè, questa cosa mi fa pensare a due cose, cioè questa storia che insomma le cose di Omero si trovano anche nella tradizione slava apparentemente, sempre questa cosa chiaramente del costa a costa, delle prossimità e come raggiungerle, il concetto del navigabile, ragazzi, è fondamentale. E poi il Gaspare Balsamo, l'amico Gaspare Balsamo, è uno completamente dentro al fatto di recuperare questa matrice comune a partire dalla sua Sicilia, diciamo che uno deve respirare la sua matrice culturale, questo è il punto fondamentale. Uno deve respirare la propria matrice culturale, se la respiri la capisci, se invece sei indottrinato di una certa altra ideologia non ci pigli, cioè se leggi il mondo, cioè raga, se leggiamo il mondo come ci dice una certa cultura, che il sud è letto da nord, ragazzi, in tutto. Io non so se qualcuno di voi vorrebbe, c'è una cosa che vorrei sapere da chi quei pochi che hanno ascoltato, ma avete mai sentito qualcosa di quello di cui stiamo parlando? Cioè nessuno ti dice queste cose, e tante cose dobbiamo dire ancora sul sud Italia, se volete, ma è che tutta la lettura che viene fatta da nord, perché io ho fatto un testo una volta, che poi è diventato una nota su Facebook, sarà del 2011, sul mio profilo, che sarebbe la differenza fra osservanti e osservati. Chiaramente noi siamo, cioè il sud Italia, cioè questo basso Mediterraneo, se volete, è finito nel mondo degli osservati, cioè è rimasto nel mondo degli osservati, cioè del gregge. Mentre gli osservanti sono quelli che poi leggono a noi. E poi, questo lo vedremo un'altra volta, cioè all'interno delle determinanti economiche della cultura, cioè Quindi sto parlando di determinanti economiche della cultura comportamentale, però è chiaro che poi le determinanti economiche influenzano tutto, influenzano anche chi ha i megafoni per i messaggi, per lanciare i messaggi, e chi ha i megafoni per lanciare i messaggi. Il Mattino è di proprietà di Napoli, di Roma, scusate, Il Mattino di Napoli è di proprietà di Roma. Cioè non esiste neanche un'editoria, non esiste, cioè esiste adesso Facebook decentrato, ma Facebook decentrato è diventato comunque una cassa di risonanza di quei messaggi là. Cioè io purtroppo, dei miei amici anche meridionali, io penso soltanto cose su Salvini lo stesso, cioè nel senso ci si aggancia a quel discorso là, tutto il neomeridionalismo che è nato è tutto, usa le stesse forme linguistiche, usa gli stessi concetti economicistici come di soldi, di contabilità che erano usati dalla Lega Nord 20 anni fa, usa gli stessi termini, cioè come dire che a Napoli, come dire, nasce l'alvomero per chi capisce questa cosa, cioè dice sasso invece di pietra. Ma se tu hai una parola italiana che si parla uno a uno con la parola che tu useresti respirando la tua cultura, cioè pietra, perché dici sasso? Perché hai bisogno di dire sasso? La stessa cosa su, beh, la linguistica va a finire pure nell'addizione, cioè quindi noi parleremo anche di perché parliamo italiano, questo italiano, perché un corso di dizione è un corso di regimentazione, perché è incredibile che due persone qua si incontrino e debbano dire giorno, due persone del sud, quando sarebbe comprensibilissimo fra le loro dire giorno, cioè si sta ubbidendo al terzo personaggio di Ortega e Gasset come se li controllasse, e dice giorno perché nessuno vuole sfigurare nei confronti dell'altro gli incentivi individuali, pensa che è meglio se si aggancia alla maniera di vedere il mondo di coloro che lo dominano, no? Quindi dici, oppure perché si dà il lei invece del voi, perché si... Ma al posto di giorno cos'è che si potrebbe dire? No, noi diciamo giorno, no? Per esempio, okay. Poi magari Andrea De Goizueta mi dirà che lui fin da quando aveva 3 anni diceva giorno, però diciamo ci sono alcune cose che fra due napoletani sarebbero comprensibili allo stesso modo, perché devi dire sasso, capisci? Cioè se tu puoi dire pietra, vuol dire che tu non stai respirando, sono delle metafore che sto facendo, eh? Certo. Cioè se tu puoi respirare, puoi leggere la vita e me la trasmetti a me in una maniera che è estremamente comprensibile a tutti e due, perché ricorrere a un sinonimo, se vuoi, esterno? Perché noi abbiamo una cultura, quando da sud facciamo anche gli osservanti, non gli osservati, perché gli osservati sono quelli che mantengono e sono la loro cosa, non sono quelli che la osservano, no? Sono adesso quelli che stanno facendo la canzone, qualche canzone neomelodica in qualche fascio dei quartieri spagnoli, sono oggi gli osservanti a Napoli, gli osservati a Napoli, gli osservanti, cioè sono quelli che semplicemente muovono il loro corpo. E vi dirò qualcosa del mio mito Galimberti adesso, del mio recente, ho capito che Galimberti ha capito tutto, ma Galimberti sta avanti, pur essendo di Monza, devo dire, ma il grande Greg del resto di dov'è? Galimberti ha capito tantissime cose, ma le ha capite perché ha studiato, e lui è uno che ha studiato, non ha viaggiato per questo Mediterraneo molto, ma ha capito delle cose pazzesche della cultura greca, del seme della cultura greca, che è poi quello che ci permane. Insomma, gli osservanti qui hanno le categorie, se volete, pasoliniane, e il problema numero uno del sud è che ancora viene letto che come il fatto che Pasolini, quindi Arminio, che è un Pasolini nato qua, ma nato all'interno, cioè uno che si è perso un atomo, gente che è nata al sud e si è atomizzata e se l'è presa con quel proprio paese, fino a che non ha avuto successo nell'Italia, e quindi poi dopo quella cosa ci è ricaduta addosso, e al sud stiamo diventando tutti atomi, quelli che sono gli osservanti, cioè quelli che si reputano intelligenti, che sanno leggere il mondo, sono tutti quanti osservanti, che però lo osservano con la struttura, con l'ottica degli atomi, di quelli che ti leggono in una maniera atomistica, solipsistica, individualistica, una cosa che associerei più alla Scandinavia che alla Calabria, per non dire nord e sud, ok? Cioè è chiaro che ci sono delle differenze culturali, c'è poco da fare. Io sono un teorico del cambiamento culturale, delle determinanti economiche del cambiamento culturale. Però è chiaro che per ogni istante di tempo ci sono delle differenze culturali, ed è facile dire che la cultura del nord è più orientata all'individualismo e alla contrattualistica, la cultura del sud è più immanentemente comunitaria. Cioè, però che cosa succede? Che tutti quelli che ti leggono, soprattutto perché purtroppo Banfield teneva la mogliera di origine lucana e non veneta, quindi chi è Banfield? Banfield è questo sociologo che è andato a fare questa, vabbè, un piccolo test, andava nel 56, 54, andò, come si chiamava quel paese? Non mi ricordo, da provincia della Basilicata, perché la moglie era di là. Parleremo dei sud italiani d'America, è troppo interessante l'argomento. Dei? Sud italiani d'America, c'è cioè nella lista delle prossime cose. Banfield ha trovato questa cosa, l'ha chiamata femminismo morale. Se andava in quell'epoca di povertà in Veneto, se che anni stiamo parlando? 1954-56, se fosse andato in quell'epoca di ancora povertà per il Veneto, lui, cioè se quindi avesse avuto la mogliera che fosse, era di origine veneta, ma non era possibile, ne parleremo di questa cosa, perché i sud italiani sono immigrati in America dopo i veneti, cioè il Brasile è pieno di veneti di 5 generazioni, emigrano fin da prima, no? Invece poi dopo guerra le cose iniziano a cambiare, sapete, il piano Marshall è stato, vabbè, non solo il piano Marshall, anche prima, non parliamo di incentivi pubblici, parleremo queste cose a fondo nelle prossime puntate. Se avesse avuto la mogliera veneta, cosa dicevo, è difficile che sia, da darsi in quell'epoca storica, questa lettura non sarebbe stata poi originata, vabbè, comunque si sarebbe trovata un'altra maniera di leggere che noi a sud siamo più individualisti, più cazzisti e cose del genere. Cioè tutto dipende chiaramente dallo sviluppo, dalla fase di sviluppo economico che si vive. Però purtroppo viene ancora letto come... Cioè noi ci affidiamo in tutto, dicevo anche in giorno o in sasso, alla maniera di leggere la realtà che deriva dalla formazione che subiamo. Quindi a sud subiamo una... Siamo catturati, ragazzi, noi siamo catturati. Il concetto numero uno, i miei due concetti numero uno sono la fioritura della base, cioè bandiamo le parole tradizione popolare, orientamento al passato, guardiamo consci di radici, facciamoci contaminare tutto e fioriamo, quindi dovremmo avere le possibilità per fiorire. E l'altra è cattura, noi siamo nella cattura, noi siamo catturati, tutto il sistema in cui viviamo è un sistema che ci cattura. Cioè pensate che, cioè, se ne parleremo poi in avanti, però insomma non riusciamo a essere proprietari del nostro sviluppo, delle nostre maniere di essere. Io ho fatto un lavoro di ricerca per esempio sulle interruzioni di energia elettrica, vabbè ne parleremo, però insomma è troppo interessante capire che proprio per esempio cioè, anche il sistema regolamentare in Italia... E sto parlando di una cosa concreta per parlare però sempre del fatto di sasso invece di pietra. Non so se questa cosa si spiega, perché poi quello è il punto, sì, fondamentale. La cosa, cioè, anche l'autorità regolamentare alla fine non riesce a riequilibrare le cose nord-sud perché il sistema è catturato. Vabbè, insomma, questo poi alla fine, poi ne parleremo un po' più avanti quando arriveremo a parlare d'Italia. Adesso questa puntata qua io volevo dedicarla a questa costruzione dello sfondo mediterraneo, di tutta questa cosa, per poi anche concludere, se volete, che il Sud Italia costituisce l'unica cacchio di eccezione all'interno di questo sfondo, cioè l'unica eccezione sfigata all'interno di questo sfondo, perché è l'unico posto di tutti questi qua che non si che risulta veramente soggiogato. Cioè la Grecia, anche in un tentativo di conquista, oggi economica fondamentalmente, ha resistito. Io, nel 2014-15, io andavo in Grecia a passare molto tempo all'entroterra per il piacere di farlo, conoscere quella cultura, ma anche così potevo anche, ma non era veramente l'obiettivo, però ho potuto constatare come tutta la narrazione che c'era, che noi subivamo sulla disintegrazione della società greca, l'individualismo... Ma dove stava? La gente, cioè i prati erano ancora tutti quanti coltivati per bene, cioè tenuti per bene, diciamo, rasi, la gente continuava a trovarsi ai caffè, cioè esisteva quel senso di sacro della cosa pubblica, della cosa collettiva, non pubblica, non parliamo di pubblica, cosa collettiva, che a noi ci è stato sottratto perché chiaramente ci hanno istruito proprio a buttarlo. e ci hanno istruito. Parleremo di, della rilevanza della perdita di principalità come area economica del Mediterraneo ai fini di generare poi l'esito che soltanto il Sud Italia veramente ha vissuto in una maniera più drammatica, cioè che è quella dello spropietamento di se stessa completamente, e quindi di man mano quelli che diventano intelligenti vanno sempre più imitando, cioè nel senso sono conformati a una visuale, a un'ottica che è fuori da noi, e magari appunto poi vogliono ricostruire questo senso collettivo attraverso la contrattualistica, ma non, oppure lo fanno guardando alle radici, quindi si orientano al passato, dopo lo iato che c'è stato di continuità culturale, no? Poi c'è un recupero, un tentativo di reinnesto, ma come lo fai? Se una volta che è distrutta il bosco, cioè è difficile, devi piantare dei semi, chissà che cosa esce, e uscirà dopo altri millenni, cioè un bosco si è formato in millenni, e come lo riattacchi più? Vabbè, comunque raga, la cosa è super complicata, adesso sto diventando troppo più generico perché non voglio anticipare tutto, non voglio dire tutto oggi, ci sta tantissimo da dire, quindi... Sì, io mi avvierei verso la conclusione, non so se per concludere, in realtà c'è una domanda di cui ci eravamo preparate, che forse già siamo, più o meno abbiamo risposto un po' alle domande che ci eravamo posti a inizio puntata, ce n'è una che è quella che c'entrano le epidemie con le economie. Ah, ok. Non so se la vogliamo affrontare. No, è facile questa, molto rapido. Vai, perfetto. Molto rapido. No, la ripeto perché ho parlato veloce. Tra le domande che ci eravamo poste inizio puntata, a cui più o meno abbiamo affrontato e che poi potrete riascoltare perché metteremo in podcast, ci eravamo posti anche questo, visto siccome la situazione è questa, che c'entrano le epidemie con le economie? E ce n'è anche un'altra che possiamo rispondere insieme, sud-nord, est-ovest, cioè la contrapposizione è sud-nord oggi, ok, ma non è che era est-ovest, e questa la possiamo rispondere insieme. Quando prima ho detto che il Venezia, cioè l'Adriatico era il golfo di Venezia, perché Venezia era l'unico polo fondamentalmente di quella cosa là, era l'unica baia naturale, se vuoi, non ci stavano altre, cioè pensate all'Adriatico come posto sabbioso, la parte italiana, sabbioso dove non potevi ospitare tutte quelle navi, no? Quindi Venezia aveva una floridità, cioè scusami, la parte est aveva una floridità relativa, non così... policentrica, come è successo invece nella parte tirrenica, diciamo tirrenica, quindi includendo anche la parte del nord Italia, no? Genova, cose del genere. E Fenoaltea, che è questo Stefano Fenoaltea, che è questo studioso, lui è PhD di economia a Harvard e poi ha fatto storia economica, super interessante quindi questa cosa, perché usa metodi quantitativi per capire questa cosa, ha rilevato come la contrapposizione fino a epoca recentissima non era, cioè fino all'inizio del Novecento, non era nord-sud, ma era est-ovest in Italia, perché cioè, però lui non so se spiegare cose del genere, chiaramente non ha il respiro, diciamo, multidisciplinare di cui stiamo parlando adesso, cioè chiaramente se tu consideri che esistono queste baie che erano i posti in cui si generava ricchezza, queste grandi baie, Napoli, Palermo, con il retroterra coltivabile, erano posti di grande ricchezza e quindi erano centri di poli fondamentali di questi scambi, in entrata e in uscita, chiaramente. Quindi l'est, l'Adriatico, invece aveva soltanto Venezia. La contrapposizione, fino a che il navigabile era il volano della crescita, no? Era il mezzo fondamentale della crescita, fino a quel momento là chiaramente soltanto l'est, cioè l'est era depresso, se vuoi, perché era solo Venezia, poi c'era Ragusa, Dubrovnik, ma insomma erano poche cose, diciamo, pochi luoghi dove potevano ospitare questa ricchezza. E per gli stessi motivi, quindi, cioè Napoli era in quell'epoca là, è stato un posto di fioritura enorme. Parliamo di Napoli, che siamo a Napoli, però insomma si può parlare anche di altri posti. Di Palermo, sai, cioè, c'è un indicatore di benessere che è dato dalla popolazione, e secondo i testi, i dati recuperati da Bayrock, questo storico economico americano, Palermo nel 1200, nel 1300, ma anche Salerno, erano il numero 2 e numero 3 del mondo europeo, quindi del mondo, cioè lasciamo la Cina, nel mondo di cui stiamo parlando, in termini di popolazione, e quindi alla fine un indicatore di benessere molto rilevante. E quindi che cosa succede? Quando le epidemie seguono l'economia, questo è un post che avevo preparato fin dal 9 marzo, ma poi non ho ancora pubblicato in Civile Meridionale, lo devo fare. E cioè che praticamente si parla un sacco di questa cosa che a me mi annoia, che sarebbe il livello, ci sta gente, Giovanni Federico, con cui ho avuto una polemica su Noise from e Boldrin, Michele Boldrin, quando ero ancora più collega di adesso come economista a loro, su Noise from America, che era il blog dei professoroni americani, diciamo, questi che insegnavano nelle università, Bisin, Boldrin, Bisin è anche una specie di amico mio, insomma, diciamo. Questi qua, c'è avuto questa polemica, che era molto oggi la ripropongono ancora, hanno fatto un altro video Federico e Boldrin su questo, sul livello di sviluppo economico del sud. È così noioso parlare di livello economico, perché un conto è il livello, un conto è il tasso di crescita che hai perso, poi parleremo se ti è stato sottratto o non ti è stato sottratto. Adesso diciamo soltanto parliamo del livello. Comunque, questo fatto che vi ho raccontato già dovrebbe dare una capacità di capire che all'inizio l'area economica principale, quindi significa che questi qua erano centri dell'economia di quel tempo là, erano i porti dove succedevano le cose. Per questo Napoli è così ricca di stratificazioni, per esempio. Allo stesso modo, oggi che cosa è successo? Che Milano e i porti si sono spostati nell'entroterra, perché prima era via aereo, oggi è proprio via etere, dove sono le concentrazioni. Parleremo di motivazioni di questo altrove, però fammi fare questo inciso, no? Cioè Milano è interessantissimo capire perché è successa questa cosa, come si è persa la caratteristica di prevalenza dell'area economica principale del Mediterraneo, la domanda un po' di Tommaso, e come è andata a finire altrove, però questo ne parleremo un'altra volta. Adesso fatemi assumere che questo sia già accaduto, e quindi Milano diventa il centro, e quindi Milano è il primo posto che si piglia il Covid. Il fatto che Milano sia il primo posto che si piglia il Covid dimostra che Napoli aveva una leadership economica in quel momento là, perché Napoli e la Sicilia, ma anche Reggio Calabria, perché si passava attraverso lo stretto, ci si fermava lì, sono i primi posti che nel 1450, mi ricordo la data, ma ve la posso trovare, andate sulla Enciclopedia Britannica online e la trovate, nel 1400, quando c'è la Black Death, cioè la peste bubonica, che proviene dal Mar Nero fondamentalmente, cioè dall'est, i primi posti che sono toccati in Italia, che sono toccati dalla peste bubonica, sono i posti che sono i centri dell'economia di quell'epoca lì. Quindi si è toccati prima la Sicilia e Reggio Calabria, e poi l'Enciclopedia Britannica, e poi viene toccata ecco, forse l'ho trovato, interessante questa cosa, ve la voglio dire, eccolo qua, Black Death, 1347, quindi la Sicilia e Napoli, coevamente a Istanbul, sono i primi posti a essere contagiati nel 1347 dalla peste bubonica, Black Death. Interessante anche Genova, allo stesso epoca, è super interessante, quindi Sicilia e Genova, vi ho detto che Genova era centralissimo nel Mediterraneo, cioè il Mediterraneo è pieno di Genova. Però è tutto un po' più cupo quando si racconta di Genova, cioè non so se avete mai visitato le Cinque Terre e raffrontate alla costiera amalfitana, diciamo, cui vengono rappresentate. E anche Marsiglia, interessante questa cosa, i posti che avevamo citato prima, per chi sta seguendo tutta questa lunga trasmissione. Quindi soltanto poi dopo viene contagiato il resto d'Italia, l'anno successivo. Quindi stiamo parlando, cioè queste sono delle prove che le epidemie seguono l'economia, e allora è noioso parlare del fatto dei livelli. Poi sì, dobbiamo parlare di un'eterogeneità all'interno dello spazio Sud Italia, ma Sud Italia, cioè, era pigliate per esempio il Piemonte e fate una proiezione mercatoriana che amplia tutto il Piemonte per farlo di grande, la stessa in grandezza del sud Italia, troveremo la stessa distanza di luoghi, la stessa eterogeneità di reddito e cose del genere per molte epoche, non per l'oggi magari. E questa cosa qua però insomma, cioè, alla fine, per me è troppo noioso parlare di livelli, ma questo è una dimostrazione quindi che cioè che le epidemie seguono le economie, e a quel punto questa è una dimostrazione che Milano oggi ha una leadership economica, per questo, se tutti abbiamo accettato che Milano ha una leadership economica, e per questo è un po' diffuso nell'opinione pubblica, si è capita sta cosa, per questo le cose sono arrivate prima là, perché ci sono là gli scambi internazionali che fanno la ricchezza, bene, allora abbiamo capito che Napoli era uno dei centri fondamentali di quel mondo lì, cioè come Costantinopoli, che figuratevi, cioè Istanbul era il centro, il fulcro di tutto, e poi vi dicevo la Sicilia, addirittura Reggio Calabria, se volete, che questo meraviglierebbe, no? Alcuni di noi, la Sardegna, la Corsica, Genova e Marsiglia, e Ragusa, vi avevo detto prima, Ragusa è il porto un po' più prossimo, cioè Venezia è stata contagiata dopo, pensate, nel 1847. Comunque sono cose bellissime su questa cosa qua, vabbè, no, molto... È molto bella la mappa che stiamo guardando, perché che vediamo anche che dell'Enciclopedia Britannica, che ci fa vedere la propagazione. Potete cercarla persona online in diretta, Enciclopedia Britannica, Black Death, morte nera, cioè peste bubbonica. Tutto. Si vede proprio come il flusso parta da Costantinopoli e seguendo dall'Asia. Dall'Asia. Poi da Costantinopoli e poi seguendo le rotte. Dall'Asia, interessante, dall'Asia dalla parte opposta, non contigua a Costantinopoli, cioè via mare, che si sposta via mare, anche nel mare. Che segue la rotta, evidentemente. Segue la rotta, segue le rotte commerciali. Proprio via, cioè, viene dall'attuale Ucraina, fondamentalmente, credo. Sì, no, Ucraina è Kiev, quindi che cos'è? Kazakhstan. Qui è ancora economia relazionale. Kazakhstan, no. Cioè, nel senso... Sì, perché non sono ancora state sviluppate. Cioè, qual è la caratteristica dell'economia relazionale? La creazione di istituzioni formali di garanzia rispetto al commercio. Cioè, questo è un punto, uno dei cardini. Gli altri cardini sono il fatto che poi a quel punto tu hai delle relazioni che garantiscono, che possono essere anche delle relazioni diplomatiche. Cioè, infatti, non a caso, cioè, se tu vai a Rodi, ci trovi l'iscrizione che quello è primo consolato italiano, assolutamente, 1300 qualcosa era, primo consolato italiano, non so se era a Rodi o in Grecia, diciamo a Rodi, non mi ricordo come diceva, perché chiaramente l'Italia non esisteva all'epoca, esisteva Genova, ma cos'è un consolato? È un'istituzione di garanzia di dei genovesi che andavano fino a là, quindi si iniziavano a creare delle rappresentanze che potessero fare da garanzia, la relazione fra stati o città-stato o potentati, e si iniziava a cercare di creare questa garanzia reciproca. Non mi tocchi il genovese che arriva fino a qua, me lo fai salvo, ha i suoi diritti, ma è molto embrionale rispetto poi alla creazione di un diritto internazionale che ancora oggi è fallace, quindi cioè ha lacune, figurati all'epoca. Non so se mi... Sì, sì, chiarissimo. Io direi che sono le 13, come con Fabri e Elvetico. Due ore. Che ci siamo fatti due ore sparati a parlare di post-punk, che è un po' bellissimo questo fatto di trovarsi a domenica a parlare di cose così diverse, così interessanti. Vabbè, io devo ringraziare Luca, dopo aver ringraziato Fabri un paio di domeniche fa, devo ringraziare Luca perché è stato un bellissimo viaggio. Viaggione, cioè siamo partiti da Mesopotamia, siamo arrivati a parlare delle epidemie e le correlazioni tra Covid e peste legate all'economia nazionale, ad esempio. Io ad esempio adesso ne approfitto per fare una piccola anticipazione rispetto a domenica prossima, 24 maggio, l'orario dobbiamo ancora capirlo, forse saremo di nuovo alle 11, che a quanto ho capito, visto che mi hanno scritto in tanti, penso che sia un buon orario. Vabbè, no, non lo so, perché oggi è l'ultimo giorno di quarantena, poi il prossimo domenica sarà tutta a mare, secondo me lo dobbiamo fare di sera, anche perché secondo me di sera alla fine ci vuole dire bene, okay, la domenica sera, se ci riusciamo, vediamo un po'. Ok, va bene, verrete informati. Io vorrei giusto la prossima domenica è intitolata Sud vince, Sud perde. E, parleremo di estensione istituzionale, rivoluzione industriale, effetti agglomerazione, effetti desertificazione, paroloni, vabbè, insomma ne spiegheremo. Paroloni, credo, sono delle domande esplicative. Sì, ci sono delle domande esplicative, credo che sarà il prossimo passo rispetto alla puntata di oggi. Alcune delle domande a cui vorremmo rispondere saranno: perché i negozi chiudono così presto a sud? Perché la mela golden ce l'ha fatta e la nurca no? Che è la mela del... Vabbè, sono domande perché volevano attrarre la curiosità, non è che sono il centro della cosa, però... Perché il prosciutto ha vinto sulla soppressata? Che sarebbe la maniera in cui qua trattiamo i porci. Perché ci sono pochi investimenti privati a sud? Come nacque l'Ital Cider, l'industria che è qui di Bagnoli? Perché l'ingegner Romeo... Che era napoletano, il pomigliano. Si spostò ad Arese, quindi... A fondare l'Alfa Romeo. A nord. Aveva già la sua fabbrica qua, perché la spostò là? Esatto. Il sud era predestinato ad avere camorra? Questa è una domanda che abbiamo che in una super telefonata. Super interessante. E, che fanno i sud italiani d'America? Cioè, domande... insomma, ho cercato di dire... Molto bello, perché finalmente queste domande danno proprio l'idea dell'interdisciplinarietà di sotterraneo. Di completamente. Parte. E tra l'altro io ho cercato di essere anche proprio pop con queste domande, sapete, no? Cioè il fatto dei negozi, la melanurca, perché comunque sono cose che toccano tutti noi queste cose qua. Cioè non sono cose che... dottorali, capì, che ci accademiche. E fra l'altro no, invitiamo tutti quanti a dare delle proprie domande. Cioè se vogliono anticipare delle domande, ora... Io penso che stavolta, se sono state 5 persone a sentire, può 2 ore, la prossima volta potranno essere 2, quindi diminuzione totale. Però se qualcuno vuole mettere qualche domanda in più... Ti è arrivato uno adesso, lo facciamo? Vabbè, io ci sto, ma non so se abbiamo tempo. Ma sì, allora... ciao Greg e Luca, complimenti. In merito al tramonto... Ma chi è? Aspetta. È un... Ah, ok, Marco. No, pensavo che era ancora Tommaso, perché io il tramonto... In merito al tramonto del Mediterraneo come mezzo di scambio tra le sponde, cosa pensate del ruolo giocato dal nazionalismo, col suo focus sui confini, nel XXI secolo? No, XIX. Io leggero discalculia, quindi... Per vabbè, questo sono affascinato da Luca Economista. XIX secolo. No, vabbè, comunque io penso che un po' già abbiamo risposto a questa cosa qua, perché ora XIX secolo. La domanda, secondo me, risente un po' di un approccio accademico, appunto il nazionalismo, XIX secolo, è come se noi stiamo parlando di un approccio un po' non accademico, no? Se vuoi. E questo approccio non accademico, Marco, grazie per la domanda, però diciamo, penso un po' di averlo già risposto in questo fatto qua, cioè che... Esiste una contrapposizione, no? fra parti che ha costituito il gioco, ma il punto si gioca molto sul blocco arabo, ma soprattutto con lo strumento religione. E poi, cioè, c'è questa cosa interessantissima che the rise and fall of the Islamic, com'era, insomma, c'è questo, alla fine anche un amico collega che stava a Harvard, che ha fatto questo Islam Science, The Rise and Fall of the Islam Science, e poi ci sono anche altri testi, altri articoli che sono usciti. Cioè c'è stato un momento in cui, date le restrizioni che aveva la civiltà occidentale rispetto, pensate all'usura, cose del genere, rispetto a oppure la potenza della Chiesa, Galilei, c'è stato un momento in cui la scienza araba, la scienza islamica, scusatemi, era molto più avanzata di quella insomma europea, chiamiamola così. E poi c'è stata un'inversione delle parti, diciamo. Quindi io allo stesso modo anche ci sono altri articoli che parlano di come i mercanti cartaginesi, un articolo famoso, i mercanti di Genova, contrappone queste cose qui. Sono tutti dati scientifici, articoli scientifici basati su dati, cose del genere. Ora, queste cose qui, c'è stata una specie di reversal of fortunes, una inversione delle fortune, che è dovuta al fatto che qui, ok, si è stappato di più, Però è una contrapposizione di blocchi moltissimo il Mediterraneo, cioè il muro che sta nel Mediterraneo, che sarebbe da scardinare, è un muro di, alla fine a sud, la parte sud hanno poco, sono molto ristretti dall'equilibrio, che è un equilibrio normale, cioè è un equilibrio, non dobbiamo andare con la fiaccola della, la fiaccola dell'illuminismo e dire, come ho fatto io nel 2000 in Siria, andare a dire a quella poverella ad Aleppo, tu ti devi levare questo velo perché tu devi essere libera. Io avevo questa cacchio di brutta cosa illuminista occidentale in testa e lei mi rispose, ma adesso vi dico a parole mie, cioè non mi importa se questa cosa mi è stata messa o non mi è stata messa, non disse questo, disse io ce l'ho nel cuore, cioè questa cosa la porto perché ce l'ho nel cuore, non perché qualcuno mi ha detto di farlo. Quindi sono equilibri, questo lo vedremo tantissimo quando parleremo di Andalusia, bellissima questa cosa, o di Grecia, sono equilibri che costituiscono l'equilibrio sociale. Ora, sono equilibri che sono più favorevoli allo sviluppo indiscriminato dell'economia, con le conseguenze che questo ha portato da noi, e le stiamo toccando con mano, e sono equilibri che sono meno prosperi per l'economia, però, cioè, quindi c'è l'economia del sud che è un po' più quindi sempre araba, della fascia nordafricana, che vabbè, esportano petrolio, ma hanno poco di più, su quello possono contare, e l'economia del nord del mondo, che, cioè insomma dell'Europa, che produce di più e però ha bisogno di quel petrolio. E insomma queste cose qui sono dei muri, adesso il gas, sono dei muri insormontabili. Ah, comunque mi ha fatto ricordare questa cosa, una cosa interessante che non ho citato, che non si parla di mutamento climatico, ma se l'economia, se la civiltà è nata, per esempio le religioni anche, sono nate nel mondo medio orientale, è interessante, cioè questo è dovuto comunque, c'era un diverso clima in quell'epoca lì, cioè non soltanto c'è stato un condizionamento climatico, una rivoluzione del condizionamento climatico che ha favorito l'integrazione di quella parte di tavola periungheriana che era proprio esclusa, quindi sto parlando della Germania, della Scandinavia, ma c'è stato un cambiamento climatico che ha reso più complicato proprio meno fertile l'agricoltura, più complicato generare lo sviluppo economico in quella parte sud rispetto al nord. È interessante, se si va in Libia, se si scende nello scatolone di sabbia, se si va nella parte di devi scendere molto, però se si va nello scatolone se si arriva alla parte di deserto non animato, cioè minerale, perché il deserto dove tu ti metti a dormire e poi intorno la mattina ti trovi tutti quanti percorsi che ti hanno tutti fatto il periplo intorno, ti hanno tutti circumnavigato gli animaletti per esplorarti, e poi invece c'è la parte di deserto completamente minerale, quella parte là soprattutto, quello è tutto è foresta che è colata giù, cioè ci trovi fossili di pietra, cioè ti spieghi che cos'è il petrolio, è vita distillata giù, ok? Cioè proprio diventato l'estratto del concentrato di vita che è colato giù, la scolatura della vita, come scolatura dei morti qua quella cosa là è il petrolio, e cioè, quindi ti parla molto dei cambiamenti climatici, questo parlando qua di ere geologiche, comunque i cambiamenti climatici in 20.000 anni possono essere stati sostanziali e avere contribuito all'inversione delle fortune. Poi la religione ha un po' bloccato, forse anche perché appunto c'erano meno possibilità materiali, però di fatto la religione ha un po' bloccato, cioè chiaramente queste cose accadono di più là dove ci sono meno possibilità materiali, cioè il sud Italia è diventato un posto più sfigato perché ha avuto meno possibilità materiali e quindi la sua cultura, se per ciascuna persona individuale ha limitate capacità di sviluppo, personalmente lo farà anche nell'aggregato di tutte le persone, e quindi poi è più facilmente preda di situazioni di chiusura, e quindi quello che si viene a dire poi oggi, vedete come sono egoisti quelli del sud, cazzisti, pensano il familismo morale, cose del genere, ci sono condizioni di chiusura che rafforzano questa contrapposizione di mondi di cui parla anche il tuo amico probabilmente. Lui dice il ruolo del nazionalismo per me sta nei blocchi di potere. Grazie mille. No, si dice grazie assai. Ma io sono... però lo sai che sono nato a Livorno, però vabbè, Livorno... No, comunque Livorno è anche un altro posto di mare. Però raga, cioè veramente grazie assai a voi che avete ascoltato, ma al grande Greg, perché cioè, per me è stata una cosa molto lusinghiera cioè io quando le ho detto facciamo questa puntata, ho detto ma effettivamente per tutte le stronzate che mi sono messa a fare qua non ho mai fatto una cosa del genere. E una volta che ho tentato un incontro all'asilo, ragazzi, è venuto nessuno, una cosa, vabbè, si può capire, perché siamo completamente fuori dagli interessi. Beh, perché sei un personaggio scomodo e spigoloso, quindi no, ma tutto così, siamo nessuno. E, però cioè appunto ho detto guarda, però se lo dobbiamo fare magari dobbiamo parlare per 4 ore, ragazzi, perché qua cioè magari possiamo parlare per ore. E per me è comunque un grande stimolo per la prima volta un po' veramente cercare, figurate, di sistematizzare, cioè, perché sono 20 anni che dovrei fare un libro, ma non, purtroppo poi non mi metto, a fare altre cose. Il festival, il teatro civile in merito. Già la vita è troppo solitaria, perché sta pure ancora solo, sta a scrivere le cose, raga, è drammatica. Vabbè, infatti Sotterranea è un primo... No, infatti, un primo esercizio. Grazie al grande GGG3G, grazie. Semplicemente grazie. Cosa è successo? Che questi discorsi di Luca ogni tanto nei corridoi li facciamo. E ho detto, vabbè, ma proviamo a registrare qualcosa. Ed eccoci qua. E, poi, beh, lui è un secchione. È stato. Io in realtà sono arrivato senza un'idea ben precisa di quello di cui parlare. Lui è un bellissimo secchione, quindi abbiamo sistematizzato un po' le prossime 4 appuntamenti. Quindi ci vediamo settimana prossima, sempre domenica. Vi facciamo sapere per l'orario, non sappiamo ancora bene, dobbiamo semplicemente Radio Virus e Radio Quarantella si appoggia a Radio Virus, e che ringraziamo sempre, che sia grata questa bellissima connessione. E il Palinsesto è una redazione diffusa, autogestita. Quindi anche il palinsesto è deciso in maniera assembleare e in base a quello che le discussioni che avremo in assemblea capiremo bene se assestarci la mattina o la sera. No, io volevo dire una cosa, cioè io è vero che ho fatto 2 dottorati, 2 master, in ciascuno dei casi uno all'estero e uno in Italia, ma cioè, però sono in politica monetaria e fiscale, cioè sono stato secchione in altre discipline rispetto a questa. Cioè la cosa da capire è che se si è solo secchioni su questi ambiti, cioè io penso che, non lo so, all'orientale all'Istituto Universitario Orientale di Napoli dovrebbe essere centrale questi discorsi qua, ma invece tutti i libri su questo argomento, ma penso anche a tutti i libri, cioè, so, la tua amica, la nostra amica Cecilia e l'altro amico sono hanno tantissima letteratura di questo tipo, no? È una letteratura molto accademica che non prende il respiro di questo Mediterraneo, per esempio. E quindi voglio dire che io se ho letto qualcosa su questi argomenti lateralmente a quelli, diciamo, di professione, se volete, tutte queste cose di cui abbiamo parlato sono state prese praticamente tutte attraverso l'osservazione diretta. Cioè, se ci chiudiamo dentro l'accademia, noi non capiamo praticamente niente di queste cose qua. E poi abbiamo degli incentivi a fare questo. Cioè, per esempio, chiaramente se tu stai in Andalusia, ma il flamenco, vai a dire che è una musica popolare, vai a fare questo studio entomologico e distanziato. È stata una continuità nel tempo per loro. E a noi che abbiamo vissuto questo iato, e quindi poi dopo non possiamo che... Per esempio, anche solo se ci limitiamo alle musiche popolari, guardarle con lo sguardo della lente di ingrandimento, della distanza accademica e fare questi noiosissimi trattati sulla etnomusicologia, cioè non capire l'anima di queste cose. Quindi il festival ha cercato, uno dei significati, sono stati tanti significati del festival, ha cercato di convogliare questo... cioè lo spirito, direttamente lo spirito di questi vari posti, perché poi era uno spirito di comunità da rinsaldare prima che si perdesse localmente attraverso la forza di chi infatti ha ancora una cultura fortissima e la balla, guarda caso sempre in cerchio. Vabbè, comunque questo, soltanto quindi girare molto e guardare, osservare ha consentito di capire queste cose con grande infelicità, se volete, perché è molto più felice chi non osserva tutte queste cose. Grande, grazie. Per rimanere un po' aggiornati, magari potete seguire su Telegram il canale di Quarantella, basta cercare Quarantella, lo trovate, oppure anche su Facebook, su Sotterranea ad esempio c'è già l'evento, abbiamo creato l'evento, su Cevile Meridionale se non sbaglio bisogna seguire la pagina di Cevile Meridionale, ma anche la pagina dell'asilo, ex asilo Filangieri di Napoli, viene solitamente postato, vengono solitamente postati i programmi. E vi salutiamo a tutti. E vi lasciamo con un po' di musichina. Che cos'è che è? Abbiamo messo l'Icariotico, che è il ballo di cerchio di questo posto meraviglioso degli amici di Icaria, che salutiamo. Anna Cochila in prima fila, non so se ci sta sentendo perché ho detto di collegarsi. Posti dove si balla a cerchio all'infinito, senza un limite superiore. Un tratto comune che accomuna tutto il Mediterraneo: l'assenza di limite verso l'alto. Ciao!